Cioè, quello che ha fatto Mussolini, praticamente. Mussolini ha fatto un omicidio plurimo colposo nel corso del suo ventennio. Va bene, abbiamo finito di parlare. Buonasera. No, per cui, perché, avvocato? No, ma perché, avvocato Sinatra? Scusi, perché? Ho superato l'età per no, gli scherzi cretini e di cattivo lo faccio stare zitto. Mi faccia parlare. Lo faccio stare zitto. Non si permetta mai più di chiamarmi. Lo faccio stare zitto. Ma qua non so. Pronto, ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? La zanzara. Tutto il resto è gioia. Va bene, abbiamo finito di parlare. No, non ho detto gioia. Lo faccio stare zitto. Ma qua non so. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? Parla il conte Dolfin da Venezia. Dovrei dire una cosa, che finalmente mi sto incazzando. Ma perché? Allora, cade un ponte e per fortuna non c'è morti perché non c'è nessuno per le strade. Esci, va a passo davanti al Monte di Pietà, c'è la coda. Boh, vabbè, vuol dire che la gente si sta impegnando gli ori e la cosa per mangiare. Vado nelle piazze e trovo la distribuzione delle cose da mangiare. Allora, l'Europa ci prende per il culo e decidono dopo Pasqua. Intanto la gente muore di fame, perché c'è gente che muore di fame, non ha più un cazzo, non ha più niente da mangiare. Brutti porci, lo avete capito che non ha più niente da mangiare? Addirittura bisogna andare a domandare se per piacere il prete ti dia un sacchetto di roba da mangiare, perché nelle chiese che sono aperte c'è un tavolo dove c'è la roba da mangiare, chi mette e chi prende. Girate, andate a vedere che è così. Non so dove siete voi, a fare le videoconferenze, oppure è il primario che è più a fare conferenze che essere all'ospedale. Ma vai a rompere i coglioni, che è uno schifo, una merda. St'altro ha messo 400 milioni e bisogna andare in e le danno le banche. Buongiorno, mi servirebbero 40.000 euro per l'attività. Bene, bene, bene. E cosa c'ha? Cosa c'ha? Una casa, c'ha 25.000 euro. È così in banca. Non so, andate a vedere, credete che siamo scemi? Sapete che le banche sono i primi usurai, che sono dei porci e dei ladri che ci rubano tutto. È ora di finirla, andate a fare in culo. Rulo, culo, culo, culo, culo. E voi sapete che io ho depositato nei giorni scorsi una denuncia. Barisoni gay. I need a sanctuary. All I hear is hurry, hurry. The dressing room is loaded with temptations. Hey, free beer for everybody. Ragazzi, dal bunker di via Monterossa ancora si trasmette Vivi e Vegeti, Vivi e Vegeti. E dai, non dico niente, non dico nulla, non dico nulla, non voglio dire niente su questi maledetti dati. Qui non credo, perché sicuramente ci sono più contagiati. Però ragazzi, fatemi una cortesia. Non lo so se siano legati al fatto che la gente non esce. Sicuramente sì, sicuramente sì. Però non fatevi venire le fregole prima di uscire per andare a trovare fidanzate, amanti o cose di questo tipo. Niente fregole. Resistere, resistere, resistere. E pippe, al limite, come diceva Ferrara. Pippe, pippe, pippe. Questa è la prima indicazione. Pippe, che... Bravo, pippe. Giusto, giusto, giusto. Seconda indicazione. Non fatevi prendere dalle follie, dalle idee balzane di andare a trovare parenti, genitori a Pasqua, anche solo a 100 metri da casa. No, no, no, non fatelo. Resistiamo ancora 15-20 giorni. Io non so se sia per questo, sicuramente sì, però resistiamo, che dopo torniamo tutti a fare un cazzo di vita normale, ad andare in un ristorante, forse questo sarà più complicato, ad avere le nostre relazioni, ad amare, ad abbracciare, ad... Ah. dal bunker costruito dal Mossad, casa sua a Roma, David Parenzo. Buonasera, buonasera. Buonasera, cari amici, buonasera. Dopo questo spot, Giuseppe Cruciani per il sociale pagato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma no, questo che spot, c'entra la presidenza del Consiglio? Restate a casa. No, io voglio dire no. Una cosa che non è buonista questa sera, per la prima volta. Culo. Mi sono rotto le scatole dello slogan andrà tutto bene. No, ma quello perché non andrà bene nulla. No, no, ma io oggi, no, no. Oggi è un mese che sono a casa, non bisogna dire andrà tutto bene, bisogna dire rimbocchiamoci le maniche. No, ma non andrà tutto bene. Questa è un'altra follia. Rimbocchiamoci le maniche. Non andrà tutto bene, non l'ho mai detto. E pensiamo a delle strade alternative. Pensiamo ma a delle strade. Facciamoci vedere l'ingegno, modi nuovi di produrre. Ma cosa usiamo vuol dire? Questo tempo come una grande opportunità. Ma amici, quale grande cari, opportunità? Grande ma vai opportunità. A fare il culo, io mi sento prigioniero. Opportunità. Giù. Allora ti faccio ridere subito con una cosa. Briatore. Senti, no, voglio capire questo. Immagino che non parleremo di tutte le questioni relative all'Eurogruppo. No, ma stai zitto, non mi annoiare subito. La gente ci vuole divertire. Dopo aver passato una giornata rinchiusa in casa, magari a sentire minchiate, dati, biologi, le mogli, le fidanzate, eccetera. Ecco, eccetera. Certo, appunto. Signor Briatore, ti faccio subito ridere col signor Briatore. No, non si può fare Briatore. No, ma Briatore ti faccio sentire subito. L'ho perché l'ho sentito ieri già. No, ma perché non riesci a pronunciare Berlinguer, mi pare. Ti abbraccio, caro Flavio, non riesci a pronunciare la parola tachipirina, non ce la fa. Sì, sì, ma perché? Perché? Eppure non so perché. Paracetamolo. Sì, forse perché in realtà lui pensa che sia, qualcuno mi ha suggerito Poli prima, la caipirigna. Forse c'è un rimando alla caipirigna. Perché effettivamente non si capisce. È una perché cosa che forse lui conosce di più. Non lo meglio so, sai, da chi dire, io ne prendo tantissime. Mi sono fatto ricoverare io in ospedale perché non riuscivo a capire cosa avevo. Il professor Zangrillo continua a dirmi tachipirigna, antibiotico, questo. Prendevo la tachipirigna da 39,7 scendeva a 39,4. Dopo due ore 39,7, per cui vivevo di tachipirigna. Cioè era tre volte la tachipirigna. Sì, sì, è quello. Pensava a quello. Pensava a quello, forza, è chiaro. Bravo Poli, è evidente. Ha fatto una crasi. Come sei colto, una crasi. Ti piace una crasi? Ti piace? Sì, è venuta sì così, non è che è sono a cercarlo. Così, una crasi ha fatto, così, scusami. Chiedo scusa se parlo un po' forbito. Andate a fare il culo, dai, va bene, evviva. Senti Giordano, che dice? No. Sai che mi fa proprio fisicamente star male? Cioè, tutte le idee sono bene. Mi fa star male. No, ma ti faccio sentire Giordano, perché ti farà impazzire questa cosa qua. Ma non è europeista, Giordano. No, appunto, ti faccio sentire subito. L'Europa non esiste. Senti con chi ne parla, no, ma senti con chi ne parlerà, perché la cosa più bella è questa, senti. Sì. L'Europa non esiste, l'Europa ci prende per i fondelli perché si vuole gnam gnam magnare l'Italia. Di tutto questo ma parleremo stasera, di altro ancora, sì, con tanti nostri ospiti, fra gli altri Vittorio Feltri, Gianluigi Paragone, Guido Crosetto. E uno di sì. Scusami, chi è che c'è lì? Tutti anti-europeisti, tutti che gli danno ragione. E poi lui dice fuori dal coro un cazzo, Mario Giordano, hai invitato tutti quelli che ti danno ragione, non sei fuori dal coro. Fammi risentire chi invita, perché poi la trasmissione, qui mi incazzo, perché poi la trasmissione si chiama Fuori dal Coro, porca puttana, non si chiama, no, questo mi fa, io mi incazzo, perché lui dice ne parleremo con, sentiamo, con chi ne vuol parlare contro l'Europa? Sentiamo, fammi risentire, perché mi incazzo stavolta. Stasera di alto ancora, con tanti nostri ospiti, fra gli altri Vittorio Feltri, Gianluigi Paragone, Guido Crosetto. Sì, fuori dal coro. E poi la chiama fuori dal coro. Ma è nel coro, è il capo del coro. Senti, posso dare una piccola notizia che ho letto oggi su una cronaca locale di un giornale? Manda, mi fai incazzare. No, senti, guarda. Gli inquilini sono entrambi morti. Il marito un mese fa, la moglie nei giorni scorsi, ricoverata per coronavirus. Così due persone, un italiano e una marocchina, hanno pensato bene di intrufolarsi nell'appartamento Aller a Milano. Anna, periferia sud-est di Milano, no, ma non c'entra niente il fatto che sia uno marocchino, non c'entra niente. Ti sto leggendo testualmente quello che scrive il giornale. Insomma. Occupata la casa di una morta per Covid. Io dico, ti dico solo questo, cioè ancora stanno lì perché ancora non sono riusciti a sgomberare. Ma ti rendi conto o no? Che non riusciamo nemmeno a sgomberare a calci nel culo due che si sono intrufolati in una casa dove due sono morti per il coronavirus. Questa è l'Italia. Comunque, Feltri, Ecco, andiamo oltre. Questa è l'Italia. Feltri, mi piace. Questa Feltri, è l'Italia, sempre. Feltri. Ogni volta la notizia dice questa è l'Italia. Poi mette Feltri, poi fa sentire Giordano, poi fa sentire Paragone e dice ecco, è questa è l'Italia. Non è l'Italia, senti questa Feltri, è l'Italia disgraziata che tu rappresenti. Senti Feltri, senti Feltri. Ricordo che questo signore a cui va tutta la mia simpatia pochi giorni fa ha detto che le mascherine non servono a niente, eppure tutta la pubblicistica negli ultimi 20 giorni, 30 giorni non ha fatto altro che parlare di mascherine, che le mascherine sono indispensabili eccetera, poi arriva il capo della protezione civile e ci dice che le mascherine non servono un cazzo, capirai che siamo tutti un po' disorientati. Ma ha detto esattamente così, però non ha detto così, però, come al solito. Io dico, ma lui cosa, che mestiere fa? No, cioè non ha detto così. No, però è così. Vero, è vero, ha detto così, io non l'ammetto. Ma non ha, de- ha detto, è il riassunto stile Feltri, chef Feltri, è il riassunto chef Feltri. Aspetta, questo è stupendo. Mamma. Tu la metti la mascherina obbligatoria quando esci, sì? No, me ne guardo bene perché io esco di casa e entro in macchina. In macchina non è necessaria la mascherina. Quando esco sono al giornale, al giornale siamo in quattro gatti perché ormai tutti lavorano da casa, per cui la mascherina non mi serve. Quindi non dico soltanto che a me la mascherina mi fa mancare il fiato, mi dà fastidio, e qui può anche andare a farsi benedire la mascherina. La metto solo se devo entrare in un negozio per, o se devo avere un rapporto con qualcuno, perché rispetto, diciamo così, le norme, ma non sono assolutamente convinto che siano indispensabili. Allora, però, uno degli audio top della giornata è sicuramente Edward Luttwak, amico mio. Edward Luttwak. Ho sentito, pazzesco. Senti, i magistrati sono dei cani sciolti, fanno più paura della mafia. Ma allora, dai, questo si riferisce, no, però, ma è stupendo, si riferisce al fatto che hanno aperto delle inchieste, no, in Lombardia, non so in che posti. Devo dire con una tempistica, però va bene, chi se ne frega, i magistrati fanno il loro mestiere, se ci sono state delle cose che non hanno funzionato in Lombardia, per carità, e facciano delle inchieste, va benissimo, per carità. No, ma certo, non è che si possono fermare, no, perché c'è il coronavirus, però senti questa cosa di Luttwak, grandissimo. Voi tutti sapete che gli investitori del mondo non hanno paura della mafia o della 'ndrangheta, hanno paura dei magistrati italiani. Ma dove l'ha detta sta roba? Cani sciolti che fanno qualsiasi cosa. Poi dice una cosa, però non forte, ma folle più che altro. Mi dice una cosa meravigliosa. Dice, a parte il fatto che il vostro decreto ha 100 pagine, il nostro 8, cioè le decisioni che vengono prese in Italia ci sono 100-150 pagine, 200 pagine nei decreti, burocrazia e rottura di coglioni. Loro effettivamente è così, fanno 8-10 pagine. Vabbè. Suicidi e uxoricidi se tieni la gente in casa. Dice, bisogna riaprire cantieri, lavorare. Ora, se sono abituati a fare le mense e non so, mille altre cose, lasciamo stare. Però lavorare all'aria aperta, lanciare i cantieri, allora, e non comporta rischio. Tutta bisogna aprire la società. Ecco, se tutta la nostra puntata chiusa, moriranno molte di più per suicidi, uxoricidi, diciamo, tutta sta roba così. È un le tema, è un tema forte. Sulla popolazione sono vere. Io ho capito che gli extracomunitari, se non immuni al virus, sono immuni alle multe. Cazzo. La zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Mi sono fatto ricoverare io in ospedale perché non riuscivo a capire cosa avevo. Il professor Zangrillo continua a dirmi tachipirinia, antibiotico, questo. Prendevo la tachipirinia da 39,7, scendeva a 39,4. Dopo due ore 39,7, per cui vivevo di tachipirinia, cioè era... Hey Crux, stavo pensando, per il tuo testamento, visto che sei pieno di soldi, fai una cosa carina. Perché non ti metti d'accordo con uno dei bordelli che frequenti per creare delle carte regalo e ci inviti a tutti gli ascoltatori della zanzara almeno una volta nella vita? Dai, Crux. Questa potrebbe essere un'ottima idea, un'ottima idea, un'ottima idea da fare anche a prescindere dal testamento, eh. E quando uno dei bordelli o il Welcome o che ne so, un altro bordello di Svizzera verrà riaperto, potrei fare delle gift card, come si dice, no? Pure, delle gift pure, card, sì, sì. Stupendo, gift card per magari con un metodo che poi sceglieremo per andare nei bordelli quando verranno riaperti. Una grande festa, caro David, una grande, grandissima festa. Mancava. Salvini torna a parlare di nuovo della questione delle chiese. Io non ne posso più di questa questione delle chiese, non ne posso più. Pure la Meloni lo ha sfanculato su questo, mi pare. Cioè, che ha detto? Pure la sua collega che ha detto la Meloni, ha detto assolutamente no, meglio pregare. Ha detto assolutamente no. Non, non è il cioè, caso oggi di ha detto le... se entrano in tre, in quattro non fa differenza. Sì, voglio dire a Salvini che sicuramente non c'è differenza, la gente va al supermercato. No, dico, Meloni è stata saggia in questo, sì, invece sì, si è sganciata. Bene, fallo anche tu, emancipati. Lo ha fatto pure la Meloni, ma sganciati cosa? Da Salvini. Ho detto che è una puttanata. Usa questa occasione, non devi avere paura. Ma uno deve essere agganciato prima. Ho parlato con gli prima. Avvocati dell'associazione A Buon Diritto, ti difendiamo, non ti preoccupare. Sei impazzito completamente. Poi guarda, si è sganciata pure la Meloni da lui. Fallo ma adesso ho detto, che ma ho sei detto in che è tempo. Una puttanata sta cosa fallo qua. Adesso dillo, urlalo, ma Salvini hai detto una puttanata, dillo, puoi dirlo, ma e non detto. È Orban qua, ma dillo, non abbiamo sentito abbastanza, non lo abbiamo sentito, ma come no, è tre giorni che lo dico che è una puttanata non... sta cosa di Salvini. Tentenni, che te lo dica pure la Meloni ti ha superato, pure la Meloni, dai, forza che ce la fai. Allora, vuoi essere più convinto, vuoi che sia più convinto su questa cosa qua? Allora, dai. Caro Salvini, su questa roba delle chiese per Pasqua aperte, aperte al pubblico con le messe, eccetera, stai dicendo una puttanata. Oh, sì, ma con meno incisivi, diretto, dritto, senza dire solo su questo tu stai, bene, sì. Sembri Totò, dillo dritto, ma, Salvini, ma stai dritto? Dicendo, no, dritto, non dire, sai, su questo al comma 2, 4, ma no, che tu comma stai, 2, su dritto, dritto, dritto, non arzigogolare, caro Salvini, no, volevo che dirti detto, caro che Salvini. Sulla questione delle chiese, vabbè, forse sei, tu guarda. Su questo potresti cambiare, sei no, incredibile. Dritto. Dritto, dritto, sei pazzesco. Vai dritto, comunque, vabbè, vai dritto. La Nappi, invece sostiene che ha già detto da noi, peraltro, che gode per la chiusura delle chiese e gode per il fatto che non ci può essere la messa di Pasqua. Adesso, oggettivamente, no. Vabbè, questo però non c'è. Questo è l'anticlericalismo della Nappi e del suo fidanzato. Nappi, Valentina Nappi, pornostar per chi non la conosce. Vai. Cosanno che collaboratrice di Micromega anche. Ah, no, non so ancora, ancora. La rivista filosofica di Forrester Press. Da una che ha subito tutta la vita subito, gli abusi della Chiesa, sono contentissima del fatto che non si festeggerà, non si farà la messa di Pasqua. Che te ne frega? Sono godo per questa cosa. Ma scusa, adesso va tutto bene, ma dove sono gli abusi, così gli abusi, lei dice, psicologici, non è che gli abusi della Chiesa adesso, va bene, alcuni personaggi della Chiesa, uno peraltro è stato anche scagionato l'altro giorno, il Cardinal Pell, ma comunque ci sono stati, ce ne saranno, figuriamoci, siamo i primi, però lei dove è stata abusata dalla Chiesa? Magari non, c'è qualcosa che non sappiamo, non lo so. Don Fanzaga, vabbè, siamo su questo filone. Don Fanzaga, la messa in TV non è la stessa cosa, ma chi se ne frega, Don Fanzaga? Poi tu hai tutto il giorno a Radio Maria per pregare, hai un microfono in cui puoi pregare, dire il cazzo che ti pare. Non ti basta questo? Vuoi anche le chiese aperte con la possibilità che la gente si infetti? Dai. Ma cari amici, stiamo attenti perché non esiste una chiesa telematica, esiste la chiesa in carne e ossa e esiste la celebrazione liturgica. E i sacramenti si ricevono personalmente attraverso la partecipazione alla vita della Chiesa, quindi può essere anche un aiuto spirituale, può essere anche una trappola, cioè nel senso che un inganno, nel senso che uno poi passando questo periodo pensa che tanto cosa vado a fare in chiesa la domenica, vedo la messa in televisione, guardate che non si adempie al precetto festivo vedendo la messa in televisione, a meno che una persona sia malata o sia comunque non può andare, insomma. Però Fanzaga, amico mio, adesso, ma tu dovresti essere contento se la gente in televisione se guarda la messa o prega. Devi essere contento solo di questo. Che te ne frega se uno fa tanto le chiese quelle sono quelle che sono, sono ormai vuote, si sa, ci va sempre meno gente. Ma che te ne frega di far riunire quattro persone a Pasqua in chiesa col pericolo di infettare? È incredibile, guarda, è incredibile. E tu sei dalla parte di questi qua. Tu sei dalla parte di questi. Per carità, sì. Per carità, essendo per uno carità. Religioso, sei dalla parte di questi. No, io appartengo a un'altra azienda e quindi figuriamoci. No. Un'altra azienda. No. Anzi, oggi stasera inizia la Pasqua ebraica. Porro, fammi sentire porro. Fammi sentire porro. A decidere le riaperture non sono gli scienziati, ragazzi, sono lei la politica, e la politica che deve cercare con il supporto degli scienziati di avere scelte politiche, perché se fosse per gli scienziati legittimamente non apriamo mai, perché non deve esserci mai rischio zero di contagio, così come in un ospedale, ma l'Italia non è un ospedale. Giustamente se la piglia con l'OMS, ragazzi, non se ne può più. Pure un altro stasera è spuntato fuori, un altro dell'OMS, a dire: beh, la curva del contagio è ancora così, non ci può. Ma chi se ne frega dell'opinione di uno qualsiasi dell'OMS? Beh, parlasse, insomma, ma parlasse, insomma, uno, adesso. Parlasse uno, parlano tutti e spesso dicono delle cose contraddittorie. Un altro sposta la data più là, un altro dice: no, beh, è esagerato, adesso non possiamo fare così. Un altro parla di settembre, un altro parla: scordiamoci le vacanze. Ma vaffanculo, parlate in pochi, dai! E sapete cosa dice l'Istituto Superiore della Sanità italiano? È fatto da funzionari pubblici italiani. L'OMS non sempre ci azzecca. Allora, voi pensate, un cittadino italiano che ha in Lombardia l'obbligo della mascherina, nella mia azienda l'obbligo della mascherina, a Roma a uscire non c'è l'obbligo della mascherina, vede Rezza, che è l'Istituto Superiore della Sanità, il fenomeno che dice non dovete, scordatevi di riuscire di casa, che dice che l'OMS non sempre ci azzecca, e l'OMS dice che non c'è sempre ci azzeccano gli altri. Adesso voglio fare un piccolo accenno a uno dei sindaci sceriffo più straordinari, che è Scateno De Luca, un grandissimo, ragazzi. Sentite come sbrocca. Imbarazzante. Beh, stupendo. Imbarazzante. Cateno, avanti tutta. Non è un uomo avanti delle istituzioni. Tutta, contro tutti. Avanti tutta, Cateno, avanti tutta. Veda, la mia fascia di sindaco la metto al contrario, impiccato dallo Stato italiano. Lo sindaco De Luca, guardi, impiccato qui a testa in giù. Ecco qual è. Cioè, lei dice ce l'hanno con lei? Al ministro degli interni. Cioè, ce l'hanno con lei? La Lamorgese, il ministro dell'interno, che si riunisce in 48 ore d'urgenza per una. Ma è ovvio. Ma ci sono dubbi. Lamorgese si deve dimettere per l'ennesima volta, dico, è inadeguata. Non solo, aggiungo che la Lamorgese, dopo che ha dichiarato il falso sui dati dello Stretto di Messina e l'abbiamo smentita con le denunce fatte dalla Polizia di Stato, ancora continua a rimanere lì e continua a consumare crimini di Stato. Mi ha denunciato per il delitto di lesa maestà. Per me, chi è che attenta i sindaci con questi colpi di mannaia si chiamano crimini di Stato. Ministro degli Interni, faccia una cosa più semplice, proponga al Consiglio dei Ministri di rimuovere il sindaco De Luca, così si le toglierà dalle scatole un soggetto irriverente, impertinente, che difende la salute dei propri cittadini. Però farà più figura se mi farà fuori con questa pistolettata di Stato. Mi prendo la responsabilità di rispetto a quello che è l'attacco che oggi mi viene sferrato. Per me, sotto il profilo della democrazia, si chiama pistolettata di Stato. Beh, Parenzo, pistolettata di Stato è gravissimo, secondo te, naturalmente, no? È gravissimo. È una dica. Cosa, non l'avevo ascoltato, non l'avevo sentito in diretta oggi mattino 5, mi pare. Insomma, sì, mattino so 5. Che era lì a delirare stamattina. Beh. Delirare. Io penso che vada interdetto. Va rimosso. Secondo me ci sono gli estremi per cui seriamente il ministro dell'interno potrebbe rimuoverlo. Cateno, perché è un problema per la sua città, è un problema anche per la sua città. Comunque ti segnalo che i governi cene rosso giallo, come si chiama, il governo giallo rosso dice che adesso non si può sbarcare in Italia, l'Italia non è più un porto sicuro e dunque i migranti non possono sbarcare. Ma che non sia un porto sicuro, i migranti non possono sbarcare toccare. Ma che non sia un posto sicuro mi pare evidente. Ma scusa, cioè, siamo considerati siamo considerati in Europa tra i paesi più contagiati. Adesso l'umanitarismo non vale più, non vale più. Ma che c'entra? L'accoglienza non vale più. Ma scusami, fratello bello, ma che ragionamento è? Ma anche per chi viene, ma tu ci verresti in Italia ora? Quelli vengono lo stesso, ci sono una nave qua alle porte dell'Italia. Ma ci verresti tu in Italia ora? Ma io, ma a me che cazzo me ne frega, ci sto già. Stefano dalla provincia di Lucca, dai. Appunto, a me che cazzo me ne frega. No, in Sicilia sì, in Sicilia sì. In Sicilia sì, Andrea, non c'è quasi un cazzo. Parte che uno, ma uno scuote sbarca dove c'è Catero De Luca, dice quel matto lì, scuote uno sbarca, uno torna indietro e mi dice no, preferisco Haftar, il generale, preferisco il generale Haftar io piuttosto. Adesso non esagerare, Stefano. Dai. Buonasera, io faccio l'agente di commercio. Oggi dovevo portare alcuni cassi con un'azienda con cui lavoro. Sì. E nell'uscita dall'azienda ho beccato due camion di due venditori abusivi di frutta. Sì. Ora io voglio capire, siamo qui tutti a rovinarci segnalare. Bisogna segnalare, amico mio. Bisogna fare la delazione. Bellissima la delazione. Io sono un fan della delazione. Ormai è impazzito. Devi fare la delazione nei confronti di questi criminali. Tutto ciò che non è stato di diritto. Delazione, delazione. Fermi tutti. La zanzara. Io anche ieri ho detto e lo ripeto che non uso la mascherina rispettando quelle che sono le regole del distanziamento sociale. Oh no, la mucchina è finita. Ci penso io, va. Ecco mucchina. Già la usavo, ma adesso di più. Perché tutto questo allarmismo, questo allarmismo che stanno dando. E la gente si sta provvedendo di tutte queste cose, ma basta lavare le mani, secondo me. Non ho preso niente, né mascherine né niente, voglio morire. Voglio morire. E la gente già lo usavo, ma adesso di più. La mascherina no. La mascherina no. Già la usavo, ma adesso di più. La mascherina no. Già la usavo. Io mangiate le cose quando stavo con le cose, polpe, pesce. Prince. Vedo molto negativo. Cosa? Ragazzi, oh cazzo, là perché non le fanno i tamponi, lampione. Appunto perché chiamo il talatà e nulla, non a pigliare poco culo. Giuseppe, ma fare impazzire, Giuseppe. Io c'ho pure il mio cognato là in Lombardia, Giuseppe fa la guardia giurata. E un suo collega qualche giorno fa l'hanno ricoverato. Onestamente la situazione vostra è ancora più l'aria, perché qua siamo fottuta a livello con potamoni escire, ma là avete pure, diciamo, la paura, perché noi male, perché la cosa è troppo, diciamo, come ti posso dire, troppo diffusa, quindi uno quando esce pensa subito male. Però tu state tranquillo, ora appena venuto Cauro, Peppe, tutto si sistema, tranquillo, sa. Cosa? Allora ragazzi, la cosa incredibile è anche il ponte crollato ad Aulla, ne vogliamo parlare, vicino a Aulla, ad Albiano, no? Tra l'altro c'erano state delle rassicurazioni dell'ANAS, adesso non so le responsabilità, ma a novembre scorso l'ANAS aveva rassicurato il sindaco di Aulla dicendo, beh, perché c'erano state delle segnalazioni, soprattutto dopo... l'ANAS è pubblica, sai, sì, a proposito di quando si dice frega. Affidare al pubblico, al privato, alla gestione delle strade e delle autostrade. C'entra adesso? Dico semplicemente dico su Twitter, perché ho visto le polemiche su questa cosa. Ma lascia perdere, chi se ne frega? Chi se ne frega? Chi ha affidato e chi non è affidato? Dico che è l'ANAS. Non mi interessa che è l'ANAS un privato, dico semplicemente che non si può vedere, non si possono vedere quelle scene raccapriccianti. E meno male che c'era il coronavirus, da un certo punto di vista, perché c'era poca gente, ci sono state solamente un paio di macchine coinvolte. Di solito c'è un traffico pazzesco. Ma che cazzo di paese è dove i ponti si accartocciano? I cavalcavia, ma tu hai visto quelle immagini dove si accartocciano? C'erano delle segnalazioni, ma come cazzo si fa? Ma uno come può avere fiducia che lo Stato, per esempio, ti aiuti a uscire fuori da questa situazione del coronavirus? Da tutti i punti di vista, dal punto di vista sanitario. Ma come distruttivo, cazzo? I ponti si accartocciano! Dai, su. Ralph spacca tutto. Ralph spacca tutto, dai. Quello sei. Ah, smettila pure tu. Poi dici sindaci sceriffo, no? Ora, ti ricordi Tutolo, il mitologico Tutolo? Quello di Lucera, sì, che abbiamo esaltato qui perché diceva a tutti: ma che dovete fare, l'estetista King Kong, che dovete fare? Siete come non dovete uscire adesso, inutile che vi chiamate a casa il parrucchiere, l'estetista o quello che vi deve fare i peli. Numero uno, lo sai che cosa ha fatto? Cioè, non lui direttamente, la moglie e i figli hanno fatto domenica scorsa il pranzo di Pasqua, perché domenica prossima, insomma, della Domenica delle Palme, sono usciti per andare a casa della suocera, a casa dei parenti, tranquillamente. Lui si è dovuto scusare, ma come? Se il sindaco è come se la moglie di De Luca, è come se la moglie del governatore del mondo, certo, De Luca, se ne fosse, fosse pizzicata ad andare a pranzo dalla cugina. E con tutta la famiglia, con i podi, eccetera. Ma scusa, ma De Luca che figura di merda fa? E questo sindaco ha fatto una figura di merda e dunque ha chiesto scusa. E va bene, ha chiesto scusa, ma sempre figura di merda ha fatto tutto, dai. L'ho fatto ieri sera e lo ripeto anche, l'ho fatto per iscritto e lo faccio anche a voce. Non ho timore, perché è naturale che sia così. E allora? Chiedo scusa per quello che è accaduto. Una roba incredibile, una roba incredibile. Intanto Feltri sostiene che dobbiamo smetterla di importare migranti. Dobbiamo smetterla di importare migranti. Però bisogna dire la verità, in questa situazione qui che abbiamo noi adesso, mettersi a pensare pure ai barconi che arrivano, anche no. Cioè, è vero, sono due partite diverse, mamma mia, però uno non è che può mettersi a parlare adesso. Uno si deve preoccupare, la polizia deve essere impegnata a fare altro, i carabinieri, la guardia di finanza. Mettiamo due belle navi militari davanti e non se ne parli più. Ma che cazzo è? Dobbiamo preoccuparci adesso? Ci sono quelli dell'ONG che dicono è gravissimo che non vengono accolti i migranti, che i porti siano chiusi. Deciso dal governo giallorosso che i porti sono chiusi e nessuno dice niente. No, questi dell'ONG devo dire ragione, che criticano lo stesso. Ha ragione di sanità pubblica oggi, anche per loro che arrivano oggi qui, si insomma, può preoccupare dai. di 150 migranti che arrivano, può essere mobilitata la guardia di finanza per un barcone. Beh, sicuramente lasci lì in mare. Ma certo che bisogna mobilitarsi, mi pare evidente, non scortarli. Secondo te la polizia in questo momento, no, Parenzo, due punti, la polizia aiuti i migranti. Parenzo, la polizia la guardia costiera, la polizia deve essere impegnata sul territorio a pizzicare la moglie del sindaco di Lucera a non andare dalla cognata, tanto per dire, a non andare dalla parente dove cazzo è andata. A questo serve la polizia in questo momento, a beccare tu con tuo figlio che magari fate una passeggiata in più, tanto per dire, a beccare un coglione che pensa che la situazione ormai è risolta e invece bisogna ancora rigare dritto. Adesso io non sono tra l'altro un uomo d'ordine, io sono uno che però quando si decide una strada, se il governo decide una strada, io non sono affatto governativo, penso anche che questi non abbiano nessun piano, che siano degli scappati di casa il governo. Però ragazzi, se non vi mettete in testa che bisogna resistere un altro po', poco, un altro po', e non se ne esce più, no? Resiste. Dai, chi c'è la pelle? Ma io credo che col casino che abbiamo in Italia sarebbe ora di finirla di importare in immigrati. E per quanto riguarda la signora ministra, io non penso sia vero che abbiamo bisogno di altri stranieri, però sono sicuro che faremmo molto, molto a meno di lei. Se se ne andasse saremmo tutti più felici. Allora, Vanni dalla provincia di Brescia, dai, avanti tutta. Vanni provincia di Brescia. Tanto il nostro amico ingegner Mario Negri dice che vuole uscire il 14 aprile, già l'abbiamo sentito ieri. Poi dopo sentiremo altri contributi. Nostro amico ingegner Negri, stupendo. Io lo trovo un personaggio eccezionale. Tanto posso dirti una cosa, non ha nemmeno tutti i torti su alcuni aspetti. Eccolo. Vanni eccolo dalla provincia di Brescia. Sì, se ho questa matti noi voemo. No, eccoli ma qua. Non è, mi innamoro ogni tanto dei personaggi, perché poi alla fine trovo sempre del buono in tutti, capito? Vanni provincia di Brescia. Sì, trovo del buono, capito, ma anche Pacciani magari comunque. No, Pacciani, per carità, no, Pacciani no, Pacciani. Tu è buono in tutti, no, no, ci sono. Dai, sono. Dimmi Vanni. Sono. Niente, io sono un ristoratore di Desenzano del Garda e sono molto arrabbiato col sistema, perché non si può un governo imporre le chiusure delle attività senza fare un saldo imprese. Quindi io mi ritrovo a casa da 40 giorni parlando con i miei colleghi. Tu hai un ristorante, giusto? Ho un ristorante a Desenzano del Garda, sì. Quante persone, quanti dipendenti, caro? Ho due dipendenti, una moglie e due figlie. Sì. E quindi il mio problema è questo, è che 40 giorni che sono a casa e l'affitto lo devo pagare, dicevo, non ne parlano se sospenderlo. Le bollette devo sospeso. Pagarle no, e non sono no. sospese. No, per le attività commerciali sospese le bollette, non sospeso sospese, tutta la malattia, tutto sospeso, fregatene, non pagarle, no. Sospeso ma tutto, fregatene, aspetta fregatene. Di prendere i soldi dal governo e non pagare una lira, nessuno governo, ti farà ma l'ingiù. Di cosa stiamo parlando? Che governo? Ho fatto la domanda all'INPS per i 600 euro che è una mancia, non sono riuscito a entrare nell'INPS. Io dico governo, quando tu fai una sentenza, quando tu fai un decreto, mettiti d'accordo prima con le persone, con gli istituti, con gli enti e dopo dai disposizioni, certo, ma... perché anche in banca oggi ieri mi davano 25.000 euro, ho chiamato nella mia banca, loro non sono a conoscenza, non sanno ancora un cazzo, dai. Non sanno ancora è un una cazzo. Presa per il culo, Cruciani. Senti, ma tu hai finito la liquidità, cioè non sei più liquido? No, ho finito la liquidità, io sono alla fame, i miei figli mi guardano, come dire, stasera cosa mangiamo? Io sono responsabile di famiglia, cosa gli rispondo? Ma spiegami un attimo, il gas e la luce. Ma scusa, sei andato in banca stamattina per chiedere questi i 25.000 euro? Ma non si sa un cazzo ancora, David, non sanno niente. Cruciani, sono andato anche ieri, loro hanno detto che non sanno nulla, non hanno disposizione dal governo, mi dispiace, chiamami domani. Ma i 600 euro dove sono? Ho chiesto anche, e ci ho messo la faccia, per il bono spesa con il sindaco Guido Malinverno, che ha approvato la sentenza oggi, ho fatto la domanda, ma nessuno la delibera sa niente. Fatto. Quindi io spiegami dico, Vanni, spiegami una cosa, ma tu il gas e la corrente a casa ce l'hai? Sì, naturalmente. Non c'ho gas e corrente, mi hanno tolto tutto. Ma quando te l'hanno tolto? Quando te l'hanno tolto, scusi? Enegam. Enegam. Vabbè, ma quello ma va bene, cos'è Enegam? No, lo faccio. No, lo ma faccio. Non c'è bisogno che lo fai. Enegam? Non sappiamo che cosa sia Enegam, però cos'è Enegam? Non pago, un mese mi hanno tolto la corrente, perché loro hanno detto che nella Lombardia 11 paesi sono in zona rossa. Ma quindi cosa stai aiutando? Le persone morte? Scusatemi per le persone morte. Che no, ma scusa, bene. Tu è un mese che non paghi, non paghi. Certo. Cioè, il tuo, la tua azienda, il tuo ristorante quando ha chiuso? Un mese fa. 40 giorni fa, un mese, sollecito, stacco. Ragazzi, ma la realtà è questa, dai, su, Vanni, ti abbraccio, ti abbraccio. Ti abbraccio, Gianni. Non funziona così. Certo, non deve funzionare così, non deve funzionare così. Nicolò da Como. Ma è ovvio che non devono tagliargli la bolletta, questo qui. Mi sembra evidente che ogni devono togliere la corrente. Nicolò, dimmi. Ciao ragazzi, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Dimmi. Sono un avvocato di Milano. Sì. E seguo una società nota alle cronache ultimamente, che ha sviluppato un'app. Sì. Una società valtellinese. Vabbè, allora. Ok, niente, è stato fatto tutto il passaggio tecnologico e per quanto mi concerne tutto il tema privacy è stato approfondito. Vabbè, qual è il punto fondamentale? Non ho capito. Il punto è che abbiamo messo sul tavolo del governo questo progetto un mese e mezzo fa. Vabbè, non è che è necessario che sia approvato il vostro di progetto. No, per l'amor di Dio. sì, ma il problema fondamentale, io... scusami Nicolò, è che tutte queste robe delle app per seguire contagiati, per seguirli a casa, o anche le persone che non sono più, no, che non sono più contagiate, per seguire, sembra una violazione della privacy, in realtà secondo me non lo è per niente. Ancora se ne parla, devono essere già pronte, già fatte, dopo un secondo, dopo una settimana, dopo 10 giorni, brancoliamo nel buio, non si sa bene, c'è un'app di qui, un'app di qua, dicono faremo, faremo cosa? Ma quando? Quando siamo tutti sottoterra? Fermo. La Zanzara. Hanno fracassato talmente tanto i coglioni con questa cazzo di chiese aperte. Guarda, sarebbe davvero da dare 5 per 1000 a Mauro da Mantova, anzi l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Che cazzoni. Da una che ha subito tutta la vita gli abusi, sì, della Chiesa, sono contentissima del fatto, sì, che non si festeggerà, non si farà la messa di Pasqua. Sono contento, godo per questa cosa. Godo come un riccio. Ma allora, io guardo principalmente hentai e porno gay. In particolare mi piacciono i neri che si inculano. Sono i miei gusti. Cosa? Signora, cosa? Nappi. La signora Nappi. Signora Nappi, che i gusti della Nappi in termini di porno sono, vabbè, maschi di colore, neri, negri, che si inculano. Così, ognuno ha i suoi gusti, no? Tu hai il gusto di vederti le serie televisive, me ne hai consigliato una molto bella che vedrò, inizierò a vedere, sì, da questa sera, e la signora Nappi vede i porno con i neri, no, che si inculano. Ma cosa, diciamo, vuoi fare? Diciamo, cioè, ma no, io, le due, per cose, carità, non sono, voglio, incompatibili, non sono incompatibili. Non voglio discutere nel merito, non voglio discutere nel merito, per carità, dai, va benissimo, se ti piace così. Oh, vabbè, in particolare mi piacciono, che cosa ti piace? I neri che si inculano. Sì, vabbè. Vabbè ragazzi, non è esattamente la stessa cosa che guardarsi una serie su Netflix, secondo me, no, per carità. È la stessa cosa, che differenza c'è? Scusa, spiegami, c'è differenza. Vorrei che commentassi, scusa, questo titolo di Libero, il picco, sentiamo, della stupidità, sì, annegiamo nei guai ma ripeschiamo migranti, una ONG tedesca, il picco della stupidità, sì, annegiamo, sì, nei guai ma ripeschiamo migranti. Invece i signori della verità, i signori della verità, vomitevole, i signori della verità, focolai nei palazzi, focolai nei palazzi occupati dai clandestini. Questa è bellissima. Focolai, vabbè, certo, nei palazzi, interveniamo, occupati dai clandestini. E c'è da intervenire, non c'è, c'è da, da chiedere l'intervento immediato dello Stato, lì, aiutare queste persone che sono un pericolo per loro e per gli altri. Io ci manderei Borgonovo con la tutina lì a intervistare questi, figurati. Io ci manderei Borgonovo con la, per carità, con tutte le precauzioni, le mascherine, ma ci manderei Borgonovo lì dentro a intervistarli. Ma perché devi andare Borgonovo là? Non ho capito. Borgonovo, così vede qualcosa di vero, di concreto, vede cos'è il disagio, vede cos'è il dolore. Pancrazio da Messina. Pancrazio da Messina. Cioè, cos'era il Pancrazio? Ti ricordi il liceo classico? Dicevano di cos'era il Pancrazio? Era la lotta greco-romana, il Pancrazio, ti ricordi? Ecco, però, certo. Il Pancrazio, meraviglioso. Pancrazio, era, secondo me, è l'ex della legione straniera. Secondo me, secondo la mia intuizione. Dimmi, Pancrazio, dimmi. C'è un pezzo di merda. Però, scusami, Pancrazio, ecco, ogni volta che tu chiami da questo bunker perché ti ricordi dei tempi della legione straniera, evidentemente, non si sente mai un cazzo. Cioè, invece, ogni tanto, quando le rare volte in cui mandi dei messaggi, ti si sente benissimo. Allora, mettiti in una posizione che almeno sentiamo la tua cazzo di voce in maniera decente, dai. Mi senti bene? Beh, più o meno, dai, dimmi. Allora, devi smettere con questa stronzata di resistere e dell'azione. Perché, scusa, devo finirla. Che dobbiamo fare? Perché non provi a denunciarmi? Perché? Che hai fatto per adesso? Non so, no, che hai fatto. Perché aspetta. Sì. Saremo in spiaggia. Siamo molte persone. Dici dove, così mandiamo qualcuno. Perfetto, Milazzo. Grazie. Dici dove. Dimmi esattamente dove vai a Pasquetta. Quanti siete? A Milazzo, trovateci. A Milazzo, vabbè, ho capito, trovateci. Certo. Come faccio a trovarti? Non è che posso scatenare i miei bravi o la polizia o i carabinieri. I droni scateniamo, i droni. Tu vai, dove vai a festeggiare Pasquetta? Scusami, Pancrazio. Poi perché solo Pasquetta? Potresti fare pure Pasqua a questo punto? A Pasqua siamo nella nostra villa. Nella nostra villa. Invece a Pasquetta dove vai? Sì. Sulla spiaggia, a 50 metri dalla mia villa. Sulla spiaggia, benissimo. Bene. Allora, segnaliamo ai signori carabinieri di Milazzo che questo signore, chiamasi Pancrazio, ma in realtà non si chiama Pancrazio, si chiamerà in un altro modo, ha una villa a Milazzo, sulla spiaggia, e vuole andare a festeggiare la Pasquetta insieme a delle persone. Segnaliamolo, che vuoi che ti dica? Cioè, se qualcuno viene a romperci i coglioni... Che fai, Pancrazio, dimmi. Ma lo mandiamo come pasto per i pesci. Come pasto per i pesci, sì. E questi ti prendono e ti portano in un'attrezzata caserma della polizia. Secondo me lo portano. Ti rendi conto che l'Italia è ridotta peggio di Auschwitz? Beh, peggio di Auschwitz adesso. Il Auschwitz paragone mi sembra improprio. Esatto. Però Auschwitz mi sembra vagamente improprio. Mi sembra. No, è vero che hanno bruciato i morti, questo è vero, però diciamo lì le usanze. Altre ragioni. Lì lo usavano come strumento per eliminare le persone. Qui le persone purtroppo sono state eliminate dal virus. Esatto. Sono due cose un po' diverse. Però il risultato è uguale. Persone morte comunque. Ma mi permetto di sottolineare a questo idiota, a questo idiota che però si pare parte che a 50 metri dalla villa diverse. A 50 metri dalla villa si possa fare, però non lo so. Dopodiché, se questo ha una villa, se questo ha una villa, non rompessi i coglioni, dici, io no? Sono Tronchetti Provera. No, questa dire, una se villa questo qui ha una villa, sì. Io sono Tronchetti Provera. Scusa, tu faresti arrivare i clandestini in questo momento, Pancrazio, sul nostro paese, diciamo, in questo momento io li affonderei sempre. Le affonderei sempre. Passato. Questa è la, diciamo, ma di la... cosa si occupa lei nella vita, diciamo, normale? Sono pensionato. Pensionato, lei è un pensionato. Quindi pensionato... io sto pagando la pensione a sto stronzo. Sì, cioè, questa è la cosa che ti dico. Io sto lavorando. Chi te la paga? Io sto lavorando per pagare la pensione a sto cornuto. Me la paga la Francia, cornuto sei tu. No, Pancrazio. Babbo. Pancrazio è un pensionato, sembra incredibile, ma io mi sono accertato. Sì, della legione straniera francese. Della legione de trans... Sì, ti dico di sì, è uno che ha fatto la legione straniera. No, è possibilissimo. È possibilissimo, dice. Quindi i francesi... Io sono babbo. Babbo tu sei nano. Vabbè. E come babbo diceva sei. De André, il nano una carogna di sicuro, sì. Perché ha il culo troppo vicino al cuore. Signor Pancrazio, no, diceva una cosa diversa. Ha importo, il cuore perché. Troppo vicino. Ma è sposato, ha figli, ha avuto una vita normale, una sessualità completa, degli amori, una figlia, una moglie. Ma certo, sono sposato 46 anni. Ma e la moglie dov'è? È qui. È zitta, l'hai legata alla sedia. Che le hai fatto? La stai torturando? Mia moglie che si sta allenando. Si sta allenando la moglie in terrazza. Che quadretto agghiacciante, che famiglia adorabile. Si sta allenando con mia figlia. Scusami, ma Pancrazio, in questo momento la situazione dei Rom dalle parti di Milazzo, com'è la situazione Rom? Ma non c'è niente. Beh, i Rom non vengono controllati, mentre i carabinieri, polizia, eccetera, controllano quei poveracci e magari vanno a fare la spesa, a portare in giro il cane. E invece? Questi se ne vanno in giro liberamente. Come i negri, benissimo. Anche tu vai in giro liberamente, però purtroppo. Anche tu purtroppo giri liberamente. È un problema. Io posso girare liberamente. No, non puoi girare. Questo è un problema. Questi giorni non puoi girare. Ma non hai paura del coronavirus? Io voglio chiederti una cosa, Pancrazio. Hai paura del coronavirus? Non c'è nessun caso praticamente. Ma dove? A Milano? Ma che ne sai che non c'è nessun caso a Milano? Ci sarà qualche caso? Ma sì, qualcuno che è arrivato dal nord è ricoverato. Comunque i Rom sono indisturbati in questo periodo, dici tu? Sono indisturbati e fra l'altro stanno occupando delle abitazioni che venivano usate da gente del posto che abitava al nord e veniva solo per le vacanze. L'occupazione dei Rom. Ciao Pancrazio. Ciao, ciao. Comunque ragazzi, è incredibile. Come è incredibile, devo dirti la verità, quelli che fanno le ironie sul ricovero di Boris Johnson in terapia intensiva. Sì, te l'ho detto già l'altro giorno. Sì, no, ma è una vergogna, ne ho letti un sacco, soprattutto appartenenti al mondo del politicamente corretto. Voglio ricordare il signor Lopalco, no? Pierluigi Lopalco, anche prima del ricovero di Johnson, che è uno dei più noti virologi, eccetera, che ha detto la fortuna è cieca, ma il virus ci vede benissimo alla notizia della positività all'epoca di Johnson. Vergogna. Claudio da Messina, vai. Ciao ragazzi, allora intanto io mi vergogno di Pancrazio, che è messinese in questo caso e non di De Luca, per tornare a quello che diceva Davide, la messinese mi vergognerei. Allora, volevo solo dire questo, è più forte di me, quasi mi vergogno a dirlo, ma io sono con De Luca. L'unica cosa che sbaglia, caro Davide, è la forma, ma la sostanza è quella. In Sicilia, dati del Ministero, in 30 giorni sono entrate 350.000 persone. No, ma io sono d'accordo al 100%. Al di là dei... ma scusami Claudio, ma è talmente chiara la cosa. Hanno fatto dei provvedimenti senza poi mettere i carri armati allo stretto di Messina. Questo è il punto. Dai, su. Nel decreto c'è scritto che non puoi cambiare regione comune, ma non c'è scritto quale regione. Ma sì, ma tutte cose. Ma tutte cose fatte. Ma tutte cose fatte in maniera pasticciata. Prima che mi sfaculi, io dal 4 marzo te lo giuro che sono in casa e dal 4 marzo, porca puttana, sono uscito due volte per la spesa. Bravo, bravissimo, bravissimo. Ci sono delle cose mancanze del sindaco, ma soprattutto dello Stato. Ti vorrei fare un elenco allucinante, ma non ci si può incazzare con un sindaco che ha il diritto / dovere, perché nella nostra città abbiamo 100 posti di animazione liberi, se va bene, in terapia intensiva. Vabbè. Su 150.000 abitanti. Ciao Claudio. Quindi Davide, non incazzarti. Ciao Giuseppe. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ragazzi. Stefano dalla provincia di Ravenna, vai avanti tutto, Stefano. Sì, ciao Giuseppe, ciao Davide. Dimmi, dimmi, dimmi. Allora, piccolo imprenditore, frutticoltore, Basso Romagna, provincia di Ravenna. Allora? Mi spiego la questione, come tutti gli anni in questo periodo fra due settimane. Posso dirti circa... una cosa ragazzi, allora, la donna che ha chiamato ieri, Lisa da Milano, senza sbandierare troppo la cosa perché non abbiamo fatto niente di particolare, dunque non è che stiamo facendo certo, pubblicità a questa cosa, su mia personale sollecitazione alla Regione Lombardia di esaminare la situazione è stata presa in carico dai servizi della Regione Lombardia. Dunque Lisa, la signora che ieri molto ha chiamato, bene. Cinquantenne che ieri ha chiamato, ed è stata una telefonata anche drammatica perché aveva la voce colpita, aveva l'affanno, hai fatto molto molto bene, ti fa onore, ma è incredibile che ci voglia ma io ho fatto una cosa normale, ha chiamato una persona, prima ci aveva mandato addirittura una mail, immagino, ho attivato benissimo, le persone, ma ti rendi conto che senza l'intervento materiale, senza un intervento materiale, che è stata una semplice telefonata, una mail, un contatto, per una volta hai fatto una cosa bella, perché tu conosci i vertici della Regione Lombardia e hai fatto dico senza ironia, come li conosco anch'io, non è che ho fatto una telefonata misteriosa. E la signora che ha chiamato ieri, ma lo dicevo è stata... seriamente, hai fatto molto bene, ma è scandaloso che ci debba essere, come dire, l'intervento di uno che deve chiamare l'assessore, il funzionario, il coso per... Stefano, vai, il tema. Stefano. Allora, ti dicevo, come tutti gli anni, nel prossimo periodo imminente, il mesetto successivo, ci occorre manodopera. Io lavoro in campagna, imprenditore agricolo, ti dicevo. Allora? E vedere tutti i nostri lavoratori, i nostri operai che sono a casa, in cassa integrazione, in disoccupazione, che paghiamo reddito di cittadinanza, e vedere il nostro ministero dell'agricoltura che si preoccupa di stringere accordi per far rientrare i lavoratori stranieri dall'est Europa, dall'Africa, per darci una mano. Però, ci vuole qualcuno che li faccia questi lavori in Italia. Non è che la gente poi, tu dici, vai a fare il lavoro a raccogliere i pomodori, a raccogliere questo, e poi uno non fa, e poi magari non trovano la gente per farlo. Cioè, poi ma ci come vuole... tutti gli anni, guarda, così ti dico 20. Ma perché è vergognoso, perché è vergognoso che facciano degli accordi per far venire gente da fuori, dalla Romania? Perché è vergognoso, no, secondo te? Perché ci dovrebbe privilegiare e dare una mano alla gente che è a casa, che non ha da fare, che non ha da lavorare. Ho capito, però per me io ci manderei, magari fosse. Io ci manderei, certo. Io ci manderei quelli che hanno reddito di cittadinanza, penso un po'. Assolutamente, a raccogliere la roba nei campi ci manderei quelli che hanno il reddito di cittadinanza per obbligo. Assolutamente, perché è quello che stavo dicendo. Oppure rifiuto nel lavoro e col cazzo che ti do 780 ciao. Euro. Ciao, ciao Stefano. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao ragazzi. Oggi mi ha mandato un audio il Corrado Secci. Allora, non dice niente questo nome, è un signore che l'altro giorno ha sbroccato, pare anche uno che abbia dei precedenti penali, ve l'ho detto, 42enne cagliaritano, che è stato fermato dai carabinieri, prima poi dalla polizia urbana, eccetera, mamma eccetera. Mamma. E non gliene frega un cazzo di prendere la multa, non riconosce sostanzialmente l'autorità dei decreti italiani, dello Stato, eccetera, eccetera. Mi ha mandato questo messaggio, senti questo messaggio che è eccezionale. Stai sbagliando proprio, ti ho cercato di pilotare, volevi fare lo show ma ci hai fatto una figura di merda. Stai giocando col diritto delle persone, con la Costituzione italiana, perché ogni legge deve essere conforme al regolamento sancito dalla nostra Costituzione. L'Italia è costituita da una serie di regole, quindi sai benissimo che la Costituzione è la base di ogni regola. Non essendo il decreto di Conte passato per un'assemblea plenaria tra Camera e Senato, come dice la Costituzione, il regolamento, la carta per culo. Ma chi è il momento in cui tu ti metti a fare il paladino del popolo oppressore, perché ci stanno schiacciando, la storia del virus è tutta una cazzata, ci stanno togliendo la libertà, stiamo togliendo il contante, ci vogliono microchippare, questo va contro i miei diritti e io muoio da combattente. Quindi questo lo puoi proprio scrivere. No, ma scrivere no, perché sono un cavaliere. Come un cavaliere? Come sei un cavaliere? Chiamiamo questo, ti prego. No. Chi è? Sono Cruciani. Eccoci qui. Ok, dimmi. Allora, con grande tranquillità, senza aspetta, non tranquillità, non giocare sporco con me, perché sennò mi esce, mi parte il lembo. Perché esci da casa? Questo voglio capire. Perché devo mangiare? Cosa vuoi? Perché sono un uomo libero, perché la mia libertà è inalienabile. Ma gli altri motivi, che articolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 della Costituzione, sono il popolo sovrano. Quindi... Sì, ma in questo momento lo Stato italiano ha deciso che escono solamente le persone per motivi di necessità, però tu non lo riconosci. Lo Stato italiano ha deciso di non comprare respiratori, di togliere la moneta contante e di mettere la criptovaluta. Lo Stato italiano sta uccidendo l'economia italiana a vantaggio delle multinazionali. E come dice la Costituzione e anche l'articolo 424 del codice civile, se io becco anche una forza dell'ordine commettere un reato in flagranza di reato, io da libero cittadino ho il diritto di arrestarlo, questo lo sai. Vabbè, questo che c'entra? Questo è un altro discorso. No, il discorso è inerente, perché se lo Stato italiano si dimostra nemico, anche quando c'era Mussolini faceva parte del governo italiano. Sì, non c'è dubbio, però voglio chiederti una cosa, Corrado. Eppure l'abbiamo impiccato e faremo lo stesso con chiunque. Beh, no, questo, la Costituzione. Questo mi pare troppo, impiccare adesso le persone mi pare un po' troppo. A me no. Ma tu non hai paura del coronavirus? Questo me l'hai già spiegato. Ma dica cosa, se il coronavirus non esiste, o comunque esiste, ma non ma è quello non che esiste. Scusi. Forma aerea. Ma come non esiste? Ma non l'ha visto. Aspetta. Mi fai parlare, ti dico cos'è il coronavirus. Vai, dimmi cosa. Dimmi. Allora, innanzitutto siamo tutti positivi al coronavirus. Ma se fosse come dici tu. Ma questo è possibile, questo è possibile. Il 90% di noi è positivo al coronavirus. Il coronavirus non esiste da moltissimo tempo, non è stato fatto adesso. Il primo caso di coronavirus dimostrato che Conte era a conoscenza risale al giorno di Capodanno. Che cos'è il coronavirus? Il coronavirus è una complicazione, guarda caso, delle vie respiratorie. I sintomi dell'influenza, ma i farmaci con cui curi l'influenza sono quelli che fanno scatenare le problemi delle vie respiratorie. Si trovano nelle polveri sottili. Sono un gruppo di batteri, quindi le polveri sottili sono state sparse anche di notte con il lancio, con le scie chimiche, le abbiamo viste perché le abbiamo palpate, le abbiamo visto a Cagliari 3, ha fatto la gelata a meno 3 gradi in scusami Corrado, per sintetizzare, secondo te il coronavirus è una pantomima creata da chi? Cioè una farsa creata da chi? Scusami. Siamo sotto attacco economico dalla Francia e dalla Germania. E che c'entra con il coronavirus? Scusa. Sono tutti quanti dei Rothschild, si sa che la Francia nel dopoguerra. I Rothschild, sì. No, Rothschild no, però dai. Ah no, dimmi chi ha comprato il debito pubblico della Francia. Ma che c'entra col coronavirus? Il col coronavirus. Allora. Se tu mi chiedi ma te lo sto chiedendo allora, infatti ti chiarisco una cosa, forse non ti hanno insegnato a fare il giornalista. Quando un giornalista interroga una persona, tutto lo sa, lui sta di diritto di giornalismo, tutto tu sa, stai, tu stai inquinando la mia versione e la mia dichiarazione, no, palesando il tuo punto di vista da giornalista, quindi stai peccando. Ma quale dichiarazione? Ti stai dimostrando un giornalista di scarsissimo livello. Ma se ti sto ascoltando da 10 minuti senza dire nulla, ma che dici? Mi sto ascoltando che mi ha interrotto e non mi ha fatto finire un concetto. Ma no, io voglio capire perché il coronavirus, da chi è stato portato qui questo virus? Dire da chi è stato portato? Non è questione di chi è stato portato. Allora te la faccio io una domanda. È così grave il coronavirus secondo te? Beh sì, certo, c'è gente ricoverata allora in ospedale. Mi spieghi perché un protocollo fatto per la sicurezza del cittadino ti dice che devi prendi 400 euro di multa se sei disoccupato e 10 per più quarti da mangiare? Ma che c'entra questo? Questi sono... Sto facendo una domanda, non mi interrompere, l'educazione. Ma come mi devi spiegare come mai come mai ti dicono di andare al supermercato, la persona più sana della famiglia con un minore, andare al supermercato dove non vengono decontaminati i prodotti, quindi vai a toccare dei prodotti, ti faccio sapere che la OMS, non mio nonno, la OMS, quindi Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato che viaggia e che rimane vivo per ore negli oggetti, quindi stiamo parlando ma quello è un discorso scientifico, viene portato nei supermercati dalle persone infette, tu vai, compri i prodotti toccati dalla persona infetta e lo porti a casa. Siccome non siamo nati ieri, non siamo deficienti, poi non so tu, io parlo per la mia fazione, è palese che questo decreto è stato fatto da Conte appositamente per non appesantire i tribunali, perché essendo sospeso il diritto umano, mandando avanti l'economia, perché se tu mi dici che c'è un problema con il coronavirus, però di notte ti metti a montare antenne e tagliare alberi secolari, che è vietato, stai violando la Costituzione. Ma chi lo fa? Mi fa capire, ma chi lo fa? Facendo capire che tu sei dalla parte del capitalismo. Ma io non so, ma io sono dalla parte del capitalismo. Beh, il capitalismo, certo, mica una cosa negativa, altro, il capitalismo. Però scusami Corrado, io voglio capire una cosa. Ma tu in particolare, tu appartieni a qualche movimento? Perché tu non riconosci, mi sembra. Innanzitutto quando ti rivolgi a me devi chiamarmi Cavaliere Secci, perché mio nonno era... Come Cavaliere? Che c'entra Cavaliere? Pure Cavaliere, ma il nonno era Cavaliere. Ma il nonno, ma il nonno, non tu. Perché Cavaliere il ser fatto dalla... non lo sai che è discendente. Ma non sei Cavaliere tu, non sei amico mio, non sei un Cavaliere. Dai, su, non è che uno ti può... Avete bisogno di parlare in due, perché di solito gli unici che parlano in due sono i coglioni che stanno a destra e a sinistra. Ma non sei voi, insomma, ti chiamerò Cavaliere. Ho detto che avete bisogno di usare due cervelli per... Va bene, Cavaliere Secci, scusi. Io Cavaliere Secci, io l'ho ascoltata in silenzio finora, perché il dottor comandante Cruciani le ha già posto le questioni di base. Cos'è il comandante di... Comandante di Vascello, comandante di Vascello della Zanzara. Le sue argomentazioni, le chiamo argomentazioni, quelle che ha utilizzato, potrei sintetizzarle in una parola sola, senza che però si offenda, davvero? Posso? Stronzate. Lei ha frugato in internet. Sono stronzate a parere di una testa di cazzo. Ma perché? Se la testa di cazzo non capisce di stronzate, visto che il film ha sempre la testa nel culo di Cruciani, allora si... Però scusami Corrado, mi risulta qua da qualche giornale. Io non ho pregiudizi nei confronti di nessuno. Ma non però... me ne fotte un cazzo di quello che tu l'hai capito. No, ma lei... A me non mi rigirate voi. Io difendo la Costituzione. Oggi a dimostrazione mi ha fermato i carabinieri. E che hai fatto? Non mi hanno potuto far firmare né lo certificato, l'ho dovuto ammettere che le regole di diritto che io stavo... stavo sciorinando le mie stronzate, ma i carabinieri hanno lasciato perdere perché non vogliono perdere tempo, Corrado, credo. Certo. Ma sei proprio coglione, a due cazzo di carabinieri che avete? C'è un carabiniere tutore della legge, lascia perdere, se fosse per una pandemia, una persona che fa del male allo Stato. Ma che cazzo stai dicendo? Ma cosa vuoi girare? Oh bello mio, te l'ho già detto che con la tua laurea mi ci pulisco il culo. Ma la pulisci? A me le mie parole non me le giri. Ecco la mamma. La Zanzara. Buongiorno a tutti. Si appena... Scusate che c'è un ritorno. Abbiate pazienza. Un attimo, abbiamo problemi tecnici. Giuseppe Conte. Buongiorno a tutti. Si appena... Scusate che c'è un ritorno, abbiate pazienza. Vai in giro a fare il galletto su tutte le televisioni, il fazzolettino, il naso aquilino. se saremo tutti a rispettare queste regole, usciremo più in fretta da questa emergenza. Il paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi, della responsabilità di 60 milioni di italiani che quotidianamente compiono piccoli, grandi sacrifici. Una comunità di individui, come direbbe Norbert Elias. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Più veloci domani, domani, domani. Più veloci domani, domani, domani. Più veloci domani, più veloci domani, domani, domani. Più veloci domani, domani, domani. Tutti insieme ce la faremo. Voglio la libertà per andare alla banca e alla posta. Effettivamente il vecchio, mi piace, era il vecchio Vanni. In questo caso va rispolverato. Finiva in un altro modo quella roba lì, eh. Finiva, ecco, appunto, appunto. Il lavoro e la libertà. Risolveremo via, via. Prima via. Via. Portalo fuori. Ah, via, via. Bene, via, grazie, via. Presidente. No, Vanni, fuori, fuori. Però, tra l'altro, ritorneremo. Tra l'altro, viva il duce, viva la libertà. Sono due cose che vecchio cozzano un po'. Maiale assassino. Voglio la libertà per andare alla banca e alla posta. Che peraltro è una libertà che c'è in questo momento, di andare alla banca e alla posta. Volevo, sì, ma questo era riferito, sì, era riferito, sì, a altro, però. Vabbè, che stava in carcere. Sei, cioè, un fabbricatore di fake news, proprio. Sei un fabbricatore, bro. Adesso, adesso mi segnalano che alcuni carabinieri, in alcune stazioni di carabinieri, in alcuni posti, te la portano a casa la pensione. E vabbè, ragazzi, bene così, bene così. Spatalino. Una spolverata di spatalino, ragazzi. Tu dici da un matto all'altro. Hai fatto, no, tu, no, questa, no, associazione, no, cioè, no, passi, no, da Vanni, il compagno, ragazzi, di merende di Pacciano. Tu non ti rendi conto che questa è l'Italia. Questa è l'Italia. Non devi stupirti. Quello di prima, il cavalier Secci. Il cavalier Secci che ha sbarellato. Ma quale cavalier? Mi dicono, appunto, un personaggio con dei precedenti penali abbastanza consistenti. È l'Italia. L'Italia concreta, reale. Quella che si vive nelle periferie, nelle città. Non quella dei salotti, come al solito. Non mi fare dire sempre le stesse cose, però. Sempre tu, i salotti, sempre le stesse cose, miei, cara. Sì, i salotti. Ma quali salotti? Tutti chiusi i salotti. A volte mi domando come la Cina sia una potenza mondiale, quando tanti suoi abitanti mangiano topi, scarafaggi. Aveva ragione il nostro governatore Luca Zaia tempo fa, quando disse che i cinesi mangiano animali vivi. Maledetti! Sì, maledetti! Fai vedere quel signore cinese che ha i cani pronti per ammazzarli, e quell'altra foto con gli altri animali. Avete visto? Ma si può andare avanti così? Ma poi quando penso che ammazzano i cagnetti e se li mangiano vivi. Oh, ha ragione il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, quando parla di un lanciafiamme. A lui piace la parola lanciafiamme. Sì, a me è chiaro che mi piace la parola lanciafiamme. Anche a me piace la parola lanciafiamme, però. Sì, perché sì. Ma io sono un po' spataliniano, diciamo, no? O comunque sì, spataliniano, sì, sì, sì, è un po' sicuro. Crucianiano. In alcune cose, naturalmente, poi questo è matto totale. E ancora conservo un briciolo di lucidità, la conservo, più o meno, poi. Quelli delle ONG, altri santoni, stanno per portare in Sicilia dei disperati africani. Loro dicono profughi, io dico falsi profughi, clandestini, qualche, non tutti, qualche sacchetto a perdere c'è sicuramente. Dottoressa Lamorgese, non sarebbe il caso di respingerli? Altra gente che vi raccomando, tenete chiusi in casa gli italiani, non ci possiamo dare la mano, abbracciare. E voi adesso potreste dare il permesso a sti quattro sciancati di approdare. No! No, no, se no, no chiamo De Luca affinché mi possa aiutare alla sua maniera. Perché poi deve aiutare lui? Che c'entra lui? Non è che bisogna aiutare Spatalino. È una roba incredibile. Oh, c'è il Conte dal film di nuovo. Conte, no, caro Conte, è incazzatissimo. Stasera è molto incazzato il Conte. Ho sentito prima il messaggio. È imbufalito. È imbufalito. Ha ragione. No, diciamo, perché non ha niente da fare. Ne ha ben d'onde. Non ha nulla da fare tutto il giorno. Appunto, so casa. Eri pensionato. Prende i soldi da quelli che lavorano. E pontifica. Fammi sentire il Conte. Quello che mi fa incazzare. Sì. È che l'Olanda rappresenta con le altre nazioni, la Svezia, la Finlandia, fanno la triade contro noi. Più o e meno. Loro non hanno un cazzo, perché l'Olanda ha 17 milioni di abitanti. Va bene? E ci vuole insegnare l'etica e anche l'educazione. Capito, ma che c'è quando hanno non vuole insegnare niente in vetrina e si fuma la droga nei loro caffè. Che cazzo vogliono fare? Hanno dei formaggi che sono schifosi, che sanno ma cosa c'entra il formaggio ottimo giallo, ma buonissimo, il formaggio olandese eccezionale, ma cosa c'entra quel formaggio che hanno? Ma cosa c'entra il formaggio con il MES? Ma allora ti dico, fammi io sentire il Conte. L'Olanda ci vuole ridurre in miseria, ma siccome che noi siamo figli di Michelangelo, Leonardo da Vinci, Giuliano Marconi, Pitagora, Archimede, li facciamo vedere noi, perché non è giusto queste cose qua, ci fanno morire da fame e rimandano sempre da settimana a settimana, ci vogliono dare i soldi imprestati. Oh, ma che cazzo sei stato alle banche, ti hanno mandato il prestito alle banche. Oh, Moschina e Pecunia e Mago Mortis, l'uomo senza denaro è l'immagine della morte, e questo è che ci hanno ridotto, e ci Cicerone aveva delle grandi massime. Sì, La più grande massima diceva: Homo sine pecunia in mago mortis. L'uomo senza denaro. Sì. E c'è l'immagine della morte. Scusi, che cosa c'erano nelle vetrine in Olanda che non ho capito bene? Che cosa hanno? Come l'ha definita lei nelle vetrine? Le sfondrate, le prostitute, le ci fumano lo spinello e ci vogliono parlare di etica a noi. Quello, anzi, caro Conte, quelle sono le due cose forse più degne dell'Olanda, mio modesto parere, oltre al pallone in alcuni casi. Da ricordarci che fino a 300 anni fa, al posto del cappello, portavano le corna. Hai capito? Scusi Conte, ma io penso che lei sia anche abbastanza incazzato per il ponte caduto, per quelle immagini terrificanti. Alla mattina si casca un ponte come fosse un asparago dentro una pignata. Un asparago dentro una pentola, la pignata e la pentola in Veneto. Allora ti sembra normale? No, ti sembra normale? No, non è normale, no. Conte. Non è un cazzo. No, ma un asparago dentro una pignata. Un soldo, sai. Un soldo, girano le barzellette, sì, mezzo rivali, 600 euro in banca, 300 euro di luce e 300 euro di gas. Ecco, questo è le barzellette che girano. No, ma Conte, lei ha perfettamente ragione. Sai che è un'immagine drammatica del Veneto quando parla il Conte? Sì, ma che io penso questo, sia denigratorio per il Veneto quando parla il Conte. Denigratorio. Guarda, Parenzo. Io leggo anche i tuoi libri. Allora, leggo. il Conte Dolfin sarà il mio capolista quando ci saranno le elezioni e quando questo paese risorgerà, quando ci saranno le elezioni democratiche. Le vinciamo subito. Il Conte Dolfin sarà capolista. Ma come si chiama la lista? Il secciava tutto. Abbiamo messo i soldi. Sono degli sbarbati che parlano. Cosa vuol che sei italiano? Veda sto ragazzo che ha 27 anni, 29 anni, che dice a di gente che ha fatto la guerra, che ha fatto l'economia, e siamo a posto. Ricordatevi che noi adesso vi daremo i soldi. Abbiamo stanziato 400. Ma che cazzo 400? Ma che cazzo sei che ha stanziato? L'aria che respiriamo. Ciao Conte, un abbraccio. Ascolta, ciao. Una cosa. Dimmi Conte, voglio fare gli auguri a Parenzo perché oggi è iniziata la Pasqua ebraica. Bravo. Auguri, bravo grazie. Conte, bravo Conte. Un abbraccio. Ciao Conte. Tutti, ciao Conte. Ciao. Tanti abbracci, caro. Grazie. Links rechts geradeaus. Du aus, links, rechts, geradeaus. Du kommst hier nicht mehr raus. Allora ragazzi, io farei una telefonata che non facciamo da un sacco di tempo, la signora Flavia Vento. La signora Flavia Vento, ho letto che una c'è cosa di nuovo? No, perché tu mi chiederai perché vuoi chiamare la signora Vento? Perché sì, appunto, che c'è di nuovo? Sì, non la chiamiamo da un sacco di tempo, però siamo in periodi anche di emergenza, come dire, no, di emergenza di persone, periodi di emergenza nazionale. Allora mi ho buttato l'occhio su una cosa che ha scritto tipo: ha paura del 5G, delle onde elettromagnetiche del 5G. Tu sai che io penso che queste cose siano delle puttanate alla Greg, sai, quello youtuber, quel disgraziato che fa, sì, che fa la youtuber con cui abbiamo avuto uno scontro, che adesso ci insulta continuamente, perché io mi diverto molto perché gli abbiamo fatto venire rabbia, si è sfogato in due video, eccetera. Dunque gli abbiamo fatto venire rabbia, questo mi basta, mi è sufficiente, perché se dovessi andare a prendere a raccogliere tutte le motivazioni, tutti i motivi per cui questo signore se n'è andato dall'Italia, saremmo qui a fare, capito, una trasmissione che dura 3 giorni, ma non mi interessa. Però la signora Bento dice che è terrorizzata dal 5G, ma chiamiamola. Pronto? Flavia? Sì? Sono Giuseppe Cruciani, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, ti chiamo dalla radio con Davide, come stai? Ciao, bene. Cara. Ciao Davide, come stai? Molto bene adesso che ti sento, cara, anche se ho sentito che hai detto delle cose che mi lasciano piuttosto allibito, ma forse ho capito male io. Procediamo. Cosa? Oh, questa storia del 5G. Dicono che fa malissimo, dicono che sono onde elettro. Sì, ma che c'entra col coronavirus, scusami? Il dicono. No, non dicono. C'entra niente col coronavirus. No, mi sembra che tu abbia messo in relazione le cose, o no? No, no, assolutamente. Ho detto che sono comunque antenne che non vanno bene per noi. Cioè, no, no, tu sei preoccupata per il 5G. Vabbè, uno è preoccupato per il coronavirus, uno si preoccupa per il 5G. Mi pare pure questo una follia, cioè, se ci pensi bene, o no? Non ho paura del coronavirus, ho paura di altre cose. Non è, cioè, ma perché? Perché pensi che sia una mezza frottola questa qua, che del contagio? Ci stanno prendendo in giro, ci deve essere qualcosa che pensi. Ma se io sto a casa mia, non è che mi viene attraverso i muri, cioè io non vedo nessuno, quindi non so come posso prendermelo. E preghi soprattutto. Sì, certo. Quello sì. Come sempre, vabbè, sono sempre casta. Quello... Sei sempre casta e preghi. Cosa vuol dire casta? Non ci casta, non credo che sei casta. Cosa vuol dire casta? Assolutamente sì, oramai sì. Da 4 anni. Sì, da 4 anni non hai rapporti sessuali con nessuno. No. Cioè, no, da 4 anni tu... no. Ma com'è possibile, no, da 4 anni ma non avere rapporti? Ma dai. Chiusa, no, l'azienda. Chiusa l'azienda. Sai, quando uno raggiunge una spiritualità molto forte, non ha bisogno del sesso. Il sesso è per le persone della terra. Chi viaggia su altre dimensioni. No, ma certo, ma infatti c'è grande spiritualità, però dico, è un dispiacere che magari alla sua età lei abbia chiuso, come dire, l'attività, quindi ma l'azienda. Ma io non mi interessa, non è che ho chiuso. Ma pensa di riaprire l'attività o no? Magari un domani con gli incentivi anche che possono arrivare dal governo. Non lo so, cioè pensa di riaprire l'attività. Non mi interessa, sono cose niente. Che non mi interessano. Quando uno raggiunge lo yin e lo yang e diventa un Buddha, non ha bisogno del... Non è contemplata manco la masturbazione? No, assolutamente no. Io sono contro ogni cosa proprio della carnalità. Tu praticamente in 4 anni stai dicendo che non sai quello che succede nelle tue parti basse in 4 anni. Ma non mi interessa, perché non ho questo bisogno fisico, visto che prego. Cioè, quante ore preghi al giorno, per curiosità? 7. Ma 7 ore al giorno, dai, non è possibile, dai, 7 ore al giorno. Sì. Cioè, tu preghi 7 ore al giorno? Sì. Cioè, ma come fai a passare 7 ore al giorno a pregare? È anche complicato, beh, difficile. Bisogna pregare in questo momento, Giuseppe. Già te l'ho detto, le cose stanno alla vita, il mondo sta cambiando e bisogna pregare. Ma che tipo di religione preghi? Nessuna in particolare? No, io prego la religione cattolica. La religione cattolica, vabbè. Ma che c'hai, un altarino a casa? Che c'hai? Che ti sei fatta? Un posto dove ti metti in ginocchio? No, ho tutte le mie preghiere, le mie messe online, tutto. Tutto. Cioè, è possibile che non hai mai un momento in cui ti eccita qualcuno? No, non hai voglia che un maschio ti metta le mani addosso? No, è una cosa molto triste. Molto triste il sesso. E perché triste il sesso? Ma perché, appunto, perché quando uno è insoddisfatto e non raggiunge picchi di grande spiritualità, appunto, sta nella dimensione ancora sessuale. Ma si può definire una situazione di asessualità? Cioè, sei asessuata? Sì, sì. Cioè, non lo so, cioè ti piace più una pianta che ne so che un maschio, ti piace più un cane che un maschio, cioè una cosa del genere, un animale. No, cioè, mi piace più la natura. Ti piace più la natura. Contemplare un ulivo è meglio di una scopata, cioè è meglio di un bacio, è meglio di che ne so, cioè contemplare un ulivo è meglio di una scopata. Vabbè ragazzi, perché devo fare? Oh, e la vita è varia, cioè c'è di tutto, per carità. Scusami se noi siamo ancora appassionati di una cosa che si chiama figa. Scusaci tanto se noi apparteniamo a questo mondo. Per voi, perché questo appunto era ancora nella dimensione della schiavitù sessuale. Ma non è la questo devo dire io che non ne parlo con la, come dire, con la continuità con la quale ne parla Cruciani, però devo dire che una chiusura simile creerebbe dei problemi anche a uno come me, che non è che ne parla come lei sa abitualmente, cioè ho capito, ma non è ammirazione, che devo dire, viva ammirazione, rispetto. Ma non c'è quale ammirazione, ma qui è la patologia, è una patologia, scusami, come c'è la patologia di quelli che sono dipendenti dal sesso, c'è la patologia della sessualità, cioè sì un po' è così, indubbiamente è così, indubbiamente così, perché quando uno sta bene e raggiunge, ti ripeto, sì, ma quattro anni, oh, ma quattro anni, di questo. Ma quattro anni, cioè, e quattro anni sono quattro anni, oh, quattro anni anche fa schifo a te, ti fa schifo il pensiero di un uomo a bosso, ti fa schifo adesso, sì. Vabbè, mettiamola così, sì. Flavio, vabbè, passi le giornate così, per cui a te non te ne frega il coronavirus, se non te fa una pippa e non scopi, preghi, ti saluto, ciao, un abbraccio, ciao. Arrivederci, ciao, signora cara, ciao. La Zanzara. We respect the emergency. We respect the emergency. We respect the emergency. Ma questo non è uno strazio? È Bini, è Bini. Ma cos'è sto strazio? Ma si è messo in inglese. È uno strazio. We respect emergency. Ma cosa fa? Ma cos'è sto bella? We respect emergency. Aridate, c'è Richard Benson. Ma chi si rivolge? Comunque Cruciani, io sono un bagnino di Pesaro, non apriremo, ma se apriamo non faccio passare un tedesco e un olandese neanche a morire d'un colpo, ci metto un cartello fuori, i bastardi tornino a casa loro, maledetti. Beh, però amico mio, è controproducente, eh? 25 febbraio, sì. Cruciani, alla domanda se si stringeva il culo, sì. Dice no, no. Giusto. 9 marzo, sì. Con i guanti e il cappellotto, sì. Alla domanda di si stringe il culo, lui no, no. È bello. Oggi, sì. Dopo che ieri ha affermato di voler fare testamento, la domanda è sempre quella: ti si stringe il culo, Cruciani? Allora, amico mio, non è che uno nella vita, siccome dice una cosa, poi le cose cambiano e rimane la stessa idea di prima. Cioè, io ho detto anche, ho fatto anche un video una volta in cui ho detto il governo terrorizza i ristoratori e i ristoranti sono vuoti, lo ammetto, potete andare a cercarlo tranquillamente, che mi sembrava in quel momento, che pur non avendo chiuso i ristoranti il governo avesse tutti ci sembrava così, a tutti. Io però tu sei andato come al solito un po' ho nessuna responsabilità di governo, cioè non ho nessuna responsabilità, certo. Per cui non me ne... E poi è vero, col passare del tempo un po' di strizza mi è venuta, ma io sono veramente convinto che in questo caso avere un po' di paura sia fondamentale. Un po' di paura, la paura alle volte salva la vita. Però ragazzi, mettendovi a conoscenza del fatto che Maurone da Mantova, per gli appassionati del genere, è stato multato perché pare che vada in giro, in questi giorni dai carabinieri, perché l'hanno pizzicato, perché va senza un cazzo, né mascherina né guanti, in giro per 7-8 supermercati, così mi segnalano, signor Maurone da Mantova, perché dice che il coronavirus non esiste. Poi lui dovrebbe fare attenzione perché mi sembra un po' sovrappeso e insomma, adesso non gli voglio augurare nulla, per carità, nella maniera più assoluta, però lui in particolare dovrebbe fare attenzione. Ma ci saranno aggiornamenti su questo. Intanto, ragazzi, qui ci inchiniamo tutti di fronte a praticamente una nuova star del mondo del porno, molto giovane, che abbiamo già avuto ospite in questa disgraziata trasmissione. da Cagliari, credo, comunque dalla Sardegna, Martina Smeraldi. Buonasera, buonasera. Ciao, buonasera. Come stai, cara Martina? Come stai? Bene, bene, grazie. Beh, insomma, bene, una come di che te cosa che si occupa che questa signora? Di cosa si occupa esattamente? Ma non te la ricordi, scusa? Vai a cercare sì, sì, un attimo, no, scusa. Per dire, in ripetita Juvent, vero, di vai. Che cosa si occupa la nostra signora? Allora, faccio un piccolo riassunto, cara Martina. Di Eurogruppo. Allora, la signora no. Martina Smeraldi era iscritta all'università. Più che di Eurogruppo, di sesso di gruppo si occupa, sì, la signora. Assolutamente. Più che in di Eurogruppo in questo momento sì. Era sì. Iscritta all'università in scienze giuridiche, vedi che sono praticamente un tuo bellissimo. Biografo sì, in scienze sì, sì, giuridiche sì, sì, sì. E poi a un certo punto si è data al porno, questa è la sostanza al diciamo porno. Delle cose va bene questo benissimo cara Martina benissimo. Dove stai trascorrendo questo periodo diciamo di quarantena, chiamiamolo così? Allora sono tornata in Sardegna per passare la quarantena con la mia famiglia. Ah, con la tua famiglia? C'è stata sì. Dunque una riconciliazione, diciamo, un ricongiungimento. Sì, per fortuna. Sì. Cioè ti sei riconciliata con mamma e papà? Sì, sì, sono molto contenta. Ma che ti dicono? Che ti hanno detto una volta che ti hanno riaccolta in casa, diciamo? Ti hanno non parlate di quelle cose lì, cioè non parlate. No, evitiamo il discorso a tavola. Ah, evitate il discorso. E tu però come fai? Come fai tu che se dici sempre di essere, come dire, una che ti manca sempre, come dire, noi il cazzo, sì. Ecco, diciamo la verità. Vabbè, diciamo vabbè. Che è molto dura, è molto dura, sì. Però comunque sto cercando di trovare altri passatempo e niente, poi faccio da sola, dunque... Ma insomma diciamo hai una tua camera lì, sei naturalmente a casa? Sì, dai ovviamente tuoi... i miei spazi comunque. Hai i tuoi spazi. Ora, tanto certo. Per far sognare un po' i nostri ascoltatori, tu che sei una, come dire, che ti sei data alla questa carriera, hai girato con Rocco Siffredi, hai girato con la signora Malena, quante cose hai girato fino adesso? Ancora per fare un piccolo riassunto. Avrò girato 40 scene. 40 scene, 40 sì, scene. Sì. L'ultima scena che hai fatto quando è stata? C'è l'ultimo ricordo? Allora, l'ho fatta a Barcellona prima di iniziare la quarantena perché appena la situazione diciamo è diventata tragica sono subito partita e tornata in Sardegna. Sei tornata in Sardegna. Dunque, l'ultima scena, sì. Ma con chi è stata l'ultima scena a Barcellona? Scusami. Allora, ho lavorato con un ragazzo che si chiama Jordi. Jordi, che Jordi. È un ragazzo molto molto famoso in Spagna. No, vabbè. Non solo nel mondo del porno, sì, Jordi. Jordi, molto dotato sì. Il signore? Sì, diciamo sì. Sì. Ben dotato. Dopo Jordi, ma che scena è stata? Una scena one to one oppure c'era una gang bang? No, era una scena io con lui all'aperto però. Ah, all'aperto. In un parco sì. All'aperto. E come cazzo siete riusciti a girare un parco all'aperto? Così cioè... Vabbè, non c'era nessuno, dunque siamo riusciti. L'ultima tua scena che ti rimane impressa, l'ultimo pisello che hai visto l'ultima è stato scena. Quello di Jordi. Di Jordi, sì. Cioè non quello di Rocco, non quello di Rocco, dunque. No, vabbè, prima era Budapest. Prima Rocco. Era Budapest, dunque nell'ordine, diciamo, l'ultimo Jordi, il penultimo Rocco. Diciamo. Sì, più o meno. Nell'ordine. E ecco, questa io... classifica a cosa serve? Diciamo, no, questo, ma per questo, capire, questo per capire, recap. Cioè, praticamente l'ultimo pisello oggi serve? È il 7, l'8. Oggi è l'8, no? Cioè, ti ricordi esattamente l'ultimo giorno in cui hai visto l'ultimo cazzo? Tanto per essere chiari? Ecco. Tre settimane fa, capito? E in tre settimane tu, che sei insomma una che appassionata della materia, diciamo così, cultrice della materia, come fai ad ovviare? Cioè, grande masturbazione immagino, no? Sì, allora, premetto che ho tantissimi giocattoli. Ah, come? I tuoi non lo sanno che c'è tutti questi giocattoli? No, ce li ho da una parte nascosti. Ce li hai nascosti, come sei tornata ai vecchi tempi quando nascondevi i giocattolini. Sì, quando... vabbè, diciamo, non li lascio in giro. No, li lasci chiusi, come si chiudevano una volta, no? Si chiudevano. Cioè, c'hai un sacco di dildi. Qual è quello che sì. ti appassiona di più, di dildo? Allora, da poco ne ho comprato uno, che è un dildo che stimola il punto G. Vabbè, quello sempre. L'obiettivo dovrebbe essere quello, o no? Sì, vabbè, diciamo. Ma ti, che ti piacciono tutti, quelli di, grande, di grandi dimensioni oppure di dimensioni più ragionevoli? Quali sono? Vabbè, centriamo pure. È una domanda un po' scontata. Beh, no, non è detto, ci sono alcune persone che magari invece preferiscono. No, preferisco le grandi dimensioni. Come nella realtà, diciamo. Va bene, va bene, evviva. Per cui evviva, la tua giornata evviva. Che fai? Hai ripreso a studiare? Non hai ripreso a studiare? Stai pensando, per esempio, no, che ne so, stai pensando di rifarti le tette? Perché io noto questa cosa qua. Secondo me tu stai pensando di rifarti le tette? No, voglio tenerle naturali. Vuoi tenerle naturali? Piccolo, però per adesso mi va bene così. Ricordiamo alla platea che ci sta ascoltando, caro Parenzo, che questa ragazza ha nemmeno 20 anni, 19 se non sbaglio, no? No, ne poverina, ha fatto da poco 20. Ah, ne ha fatti 20. Ma anni. I genitori sono contenti, sono tranquilli, sono ma l'abbiamo felici già detto, in tutte queste no, sue non sono. Beh, ripetiamolo contenti, però. Ma hanno accettato. Hanno accettato, dai. Hanno accettato. Ma ripetiamo, ripetiamo. Ma non c'hai, che fai? Sexting? Fai mandi dei video in giro a qualcuno? Ragazzi, aveva una vita davanti, aveva un futuro davanti. Dimmi. Prendo il mio OnlyFans in cui metterò dei contenuti ovviamente amatoriali che faccio da sola con i miei giocattoli o magari qualche video di masturbazione mentre magari sono in doccia. Sì, con i tuoi, con i tuoi genitori nelle stanze accanto, naturalmente. Nelle stanze. Vabbè, per forza, accontentarsi. Beh, comunque, non pensi di avere. Ma tu pensa che tragedia questa qui? Ma perché che tragedia? Perché parli sempre di tragedia? Tragedia. Ma no, ma a 20 anni, esatto, a 20 anni è pienamente no, tragedia, però voglio dire, i genitori che dicono: cosa fai, tesoro? Di là? No, sto facendo un video. Ah, che bello! Un video ma su che cosa, che... amore? Insomma, dai, tutti siamo liberi di vivere la propria. Ma certo, però posso dire com'è? Da genitore, come direbbe ancora, Salvini, da sempre, padre, sempre lo dico da padre, la stessa di Salvini, storia. Sempre lo dico da padre, sì, di Salvini, sì. Non lo criticavi, non l'hai mai criticato. Lo dico da padre, ecco, lo dico da padre, è una tragedia. Non è una tragedia, dai, è la libertà, è la libertà. No, non è la libertà. È la libertà, è assolutamente ognuno la... il proprio modo di pensare. Cioè, no, ma ognuno ha il proprio modo di vivere, carità, soprattutto. Ma... No, il proprio modo di vivere. Fortuna. Ma scusa, le volte che esci, esci qualche volta o sei rintanata in casa da 3-4 settimane, quello che è? Cioè... No, vabbè, ho passato le prime 2 settimane totalmente rinchiusa perché ero tornata da Barcellona, dunque sono stata proprio la quarantena vera e propria, adesso ogni tanto vado a fare la spesa. Ti riconoscono, che ti dicono? Sì, mi capita spesso. Che ti dicono? Niente, ma ti puoi togliere la mascherina? Io no, guarda. Sono io, però Vabbè, manteniamo le distanze. Sì, ma voglio capire una cosa, ma i tuoi tu hai delle persone con cui fai sesso, diciamo, virtuale? Perché ormai è il periodo del sesso virtuale, oppure non hai fidanzati, spasimanti, allora, scopa amici e cose? Sì, ho qualche amichetto, diciamo, con cui mi sento, però... Non ti piace il sesso virtuale? No, qualche video... Però niente di. Non, di fai, che, non ti piace il sesso virtuale? Mi pare di capire che fare sesso virtualmente, cioè. Con qualcuno collegato, cioè no, con un collegamento lui che si tocca e tu che ti tocchi, non ti piace? Sì, vabbè, dipende anche dalla persona. Sì. Cioè, diciamo, se questa persona riesce a trasmettermi tramite un telefono. Ma qualcosa... ce l'hai qualcuno o no? Sì, no, qualcuno ce l'ho. Però. Però. Diciamo sono pochi. In questo periodo i veri uomini stanno. Ma qual è la prima cosa che vorresti fare, cioè dal punto di vista sessuale, di scena, che vorresti fare una volta usciti da questa quarantena? Ci sarà una cosa? Una gangbang. Una gang, subito. I buoni propositi subito. Per il futuro. Subito una gang, ragazzi, cioè, è stupendo. Subito. Sentire questa voce che dice sì, subito una gangbang. Tu in mezzo e quanti uomini vorresti intorno? Più sano meglio è. Ciao. Un abbraccio, viva la Sardegna, un abbraccio, ciao, ciao. Grazie, ciao. La Zanzara. Mi sono fatto ricoverare io in ospedale perché non riuscivo a capire cosa avevo. Il professor Zangrillo continua a dirmi tachipirinia, antibiotico, questo. Prendevo la tachipirinia da 39,7, scendeva a 39,4, dopo 2 ore 39,7, per cui vivevo di tachipirinia, cioè era... David! Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi 2? Sì! Diventa 1000. Ma va a cagare, vedete che non ti sci altro, ma coppa te! Si vede che hai provato qualcosina, parlano, che è commovente, Filomena. Simona. Simona. Mamma mia, allucinante, allucinante. Ma fallo star zitto, struga il coglion, fallo star zitto. Il professor Zangrillo continua a dirmi tachipirigna. Che voglia di cazzo, mamma mia. Domani è un altro giorno, il 14 aprile sarà un altro giorno. Il 14 aprile io esco, io sono autorizzato a dire oggi il 14 aprile io esco. Il 13 terminano le misure di contenimento, il 14 aprile io esco. Siamo autorizzati. Perché il 13 finiscono le misure di contenimento. Pensate, contenimento, a che punto siamo arrivati. Lo possiamo dire. Il 14 aprile io esco. Lo dobbiamo dire. Anche se dovessero comunicare 10.000 morti il 12 aprile, noi il 14 aprile usciamo. Ancora, ancora negri, ancora negri, ancora negri. L'ingegnere avanti tutta. Quei numeri comunicati dall'Istituto Superiore di Sanità, quei numeri che affermano che i morti direttamente riconducibili al coronavirus sono molto molto pochi, addirittura in certi casi non ci sono. È una percentuale bassissima, bassissima, 12 su 400 cartelle esaminate. Poi a un certo punto oggi l'ingegner Negri si è messo su una panchina, ieri credo, su una panchina. Su una panchina, non so se si possa fare, comunque su una panchina di fronte a casa il mitologico ingegner Negri ha detto: ci governano dei mentecatti senza legge. Ma non per il coronavirus solamente, per quella banda di mentecatti, per quella banda di banditi di strada con i suoi sgherri, per il fatto che viviamo in un paese senza legge. Non c'è più la legge, se adesso arriva un immigrato e mi pugnala, niente, tutto bene. Se invece lui sta lì, arriva il poliziotto, io sono pugnalato da un immigrato, sto lì, non ne posso più, neanche mi guarda, chiede a lui documenti, lei perché è qui? Deve spiegare subito. Questa, senza legge, senza legge. L'Istat ha affermato che l'anno scorso sono stati nel mese di marzo 15.000 deceduti, molti di questi per polmonite. Allora sono di meno o sono di più? Sono addirittura di più di quelli di quest'anno. Ma no, ma questo è venuto per le misure di contenimento, perché se no, se non c'erano le misure di contenimento, invece di 800 morti al giorno, un milione, e allora lì popolino, sì, sì, bene Conte, bravo, bravo, hai salvato la vita. Anche la notte più lunga termina, sia vera, ma se noi staremo a casa altri 15 giorni non terminerà, sarà una notte illimitata, non avrà limiti, perché l'Italia sprofonderà, non ci saranno più i soldi per le pensioni, per gli stipendi, entreremo nel MES, arriverà la troica, perderemo la sovranità nazionale, ma ci rendiamo conto? No! Leggo da qualche parte che l'app per la fase 2, la famosa fase, io odio questo termine, la fase 2, funzionerà in questo modo: un allarme se si è stati vicino a un positivo. Pensate veramente che ci sarà questa cosa qua, che il governo italiano riuscirà a concepire una roba del genere? Ma io non ci credo nemmeno se lo vedo, nemmeno se lo vedo, nemmeno se lo vedo. Poi ti voglio segnalare, caro David, un'altra cosa. Tu parli sempre di fake news, no? Però la realtà c'è, David, no, no, no, non si esprime, non c'è, fermo, adesso sì, allora, le fake news, le principali fake news esistenti sì, ha scritto qualcuno, sì, sono quelle fatte circolare dai governi nazionali e locali di tutto il mondo, così, nessuno escluso. Quelle vanno verificate sempre, spesso sono delle fake news o delle cose propagandistiche. Non le cose, aspetta, non le cose che dice il primo poveraccio sui social. Anche che se dovesse dire che la Terra è piatta, deve essere libero assolutamente di dirlo. Questo ma è abbastanza sono chiaro. Alcuni no? governi queste non democratici che stronzate le fanno circolare che parlano fake di fake certo, news come certo, se fossero quelle dell'ultimo cretino. Certo. Le vere fake news sono nel 90% dei casi prodotte dai governi. Questo è evidente. Alberto da Roma. Comunque, dal governo russo, sì, ma certo, governi tutti dal tipi, governo di tutti ungherese, i tipi, certo, ma è giù, certo, ma questo che hai dici, ragione, certo, da tutti dal tipi. Governo cinese, certo. Alberto, certo, dimmi. Ma Davide evidentemente vive ancora nel mondo dei sogni. Allora, no, la situazione è questa. Tra l'altro, scusami, Jordi, il pornottore spagnolo prima citato da Martina Smeraldi, soprannominato El Niño Polla, cioè il bambino cazzo. Alberto, dimmi. Vabbè, ecco, vabbè, non notizia allora, così, laterale. No, mi fa ridere che Davide vive ancora nel suo mondo dorato dei sogni. Allora, io oggi sono stato fermato da una volante del cielo, un posto di blocco. Sì. Mi hanno fatto 533 bene, euro di multa. Bravo, si vede che non eri in regola con i tuoi documenti. Vabbè, questo è il pregiudizio di Davide, però evidentemente... No, non lo so. Se eri in regola, allora, avevi le cose, avevi... Allora, se no, avevo della documentazione... Cioè, te l'hanno fatto perché cos'è? Uno stato di polizia che ti hanno fatto... No, perché credo semplicemente, allora, ti spiego com'è andata la cosa, se vuoi sentire prima dal giudizio. Allora, certo, io sono separato di fatto, quindi evidentemente non ho avuto ancora il tempo di separarmi legalmente. Ho fatto vedere ai poliziotti, che devo dire sono state anche gentili, ho fatto vedere la residenza di mio figlio e la residenza mia, sì, che evidentemente sono in due punti diversi, differenti. Certo, il tragitto corretto su Google Map era assolutamente il più breve. E loro hanno detto, guarda, la situazione è un po' dubbia, ma mi hanno fatto capire che l'ordine di scuderia era stato quello che nelle situazioni dubbie... Quindi puoi in fare caso assolutamente era... ricorso, io credo, perché è vergognoso che... Puoi fare assolutamente scusami, ricorso. Scusami, Alberto, voglio capire una cosa. Tu hai preso quanto... Lo stesso agente mi ha detto di fare ricorso, però capisci che se devo andare a trovare mio figlio una volta, due volte a settimana, io non è che posso accumulare... Non c'è dubbio, è stato poco flessibile l'agente di polizia. È stato molto poco flessibile l'agente di polizia guarda, non capire il contesto. Volevano fare, poi hanno chiesto al superiore, il superiore evidentemente ha dato, da quel che ho capito, così questa è follia pura, devo dire, questa anch'io è una follia, ah, no, mi sembra abbastanza evidente, ma non è uno stato di polizia, sono persone che non ragionano. Ho un'azienda che ferma da due mesi, siamo una società commerciale per cui ho tutti i collaboratori a partita IVA, il governo continua a fare decreti senza attuativi, cioè, tu non pagarla intanto, questa non devi pagarla, questa multa non pagarla. Se io devo vedere mio figlio tre volte a settimana, in due mesi accumulo 20.000 euro di multa, cioè capisci che c'è qualcosa che non funziona. No, allora, in un Alberto, momento... Alberto, posso dire una cosa? Innanzitutto uno potrebbe anche per carità, pazzesco, tu fai le cose in regola sicuramente perché hai il diritto di andare a trovare tuo figlio, penso, no? Secondo le leggi vigenti. Ma guarda, ho portato certo tutti i documenti, ragazzi, ho portato da certificato di residenza. Però amico mio, posso dirti una cosa? Io è un mese più o meno che non vedo mia figlia. WhatsApp, video, la sera, la mattina, ma no, durante il giorno, vederla, quando voglio. Vedendo, capisci bene che quando... Ma non lo faccio per una questione pure di sicurezza. Ma c'è nel decreto? No, sì, sì, sì, sì. Considera che io esco da casa mia e prendo la macchina, non vedo nessuno, arrivo lì e arrivo davanti alla casa di mio figlio. Capisci che rompo sì, per un ho capito, però tu non che sai. Una separazione da poco, capisci? No, ma che... questo lo capisco, per carità, infatti non sto andando nel caso personale, ti sto dicendo un'altra cosa, che è molto semplice. WhatsApp video, collegamento video, no, che ma puoi fare. Per carità, si fa, sì, però capisci che metti a repentaglio la tua salute, perché che cazzo ne sai che è andato a fare la spesa con la tua ex moglie, con la tua ex compagna e si è preso qualcosa che poi trasmette a te perché lo abbracci, lo baci. Ma di che parla? Ragazzi, ma non è che sono cazzate, perché ci sono una marea di asintomatici in giro per l'Italia di cui non siamo a conoscenza. Si presuppone che il figlio sia in casa criterio con la madre, dai, dico, questo è una sciocchezza. Quanti anni ha? Scusa, adesso non mi dico. Mia figlia ha 7 anni. A 7 anni è andato. Si presuppone che sia che la madre sia responsabile, ma non no, è che incontra 50 persone. Ma cosa c'entra che è responsabile? No, va a fare la spesa. Giuseppe, va a fare la spesa. Giuseppe, e cioè... Io su questo sono rigido come te. Considera che sia io sia loro ci possiamo portare la spesa a casa. Quindi, da questo punto di vista, siamo ossessivi al punto giusto per non correre allora dei rischi. Però capisci bene che allora io sono un'azienda che è ferma da due mesi, lavoro nella ristorazione e sarò probabilmente fermo per altri mesi. Io scusami, se ti posso dare un consiglio, per quello che so, potresti a questo punto, per evitare altre stronzate, andare dal prefetto, andare dal prefetto. Ma questo farai ricorsi, e farti, oltre a fare ricorsi, ma andare subito dal prefetto e farti una lettera, un documento speciale in cui spieghi la tua situazione. Ma come fa? Devo uscire e andare dal prefetto. Ma siamo a Roma, Davide, a Roma, che cazzo è il prefetto in un momento così? Figurati. Caga Alberto Badaglio. All'ufficio in prefettura, ciao, insomma, Alberto, questo ti abbraccio, vai avanti tutto. Ciao. Allora ragazzi, la situazione dei Pipparoli è arrivata a un punto di non ritorno, cioè dei Pipparoli, non i Pipparoli per scelti, i Pipparoli per necessità purtroppo. E sono in alcuni casi Pipparoli credenti, cattolici, ferventi cattolici che lo sentono come un peccato. A noi ci, beh, sì, ci normale. Sai, non è farsi una pippa, masturbarsi è una roba, certo, dal punto di vista della religione cattolica che non è consentita. E dunque chiamano i preti e poi ci riferiscono, ci comunicano quello che è successo. Sì, Don Giulio. Sì, buonasera, Don Giulio. Io mi chiamo Giuseppe, lei non mi conosce, non sono un suo parrocchiano. Sì. La testa mi sta scoppiando, e non soltanto la testa. È da solo o altre sì, persone? Sì, quello è il problema. Io ho bisogno di una donna, capisci? Sì. E non avendo una donna, io devo fare lo stesso. Sì, e ho capito. Io mi rendo conto, padre, che è sbagliato, che è un atto impuro, ma io devo fare da solo, capisci? Sì. Ho capito. È brutto, ma devo farlo. Se lei non può fare a meno, cerchi di resistere, ma se non può fare a meno, chieda perdono al Signore. E lei sa che in questo periodo, no? E c'è stata la disposizione del Papa che tutte le mancanze, anche quelle gravi, sono perdonate, purché si faccia un atto di dolore perfetto. E il proposito, poi, quando sarà possibile andare a confessarsi, si dovrà confessare. Questo, come dire, tranquillo in questo senso, che è perdonato dal Signore se fa un atto di dolore. Io sono cattolico, ma qui io scoppio, io non so cosa fare, anche 3-4 volte al giorno, padre, una situazione. È in una situazione che non può fare 4 passi. Ma sai, io ho provato a fare 4 passi l'altro giorno, mi hanno fermato i carabinieri, hanno cominciato a farmi tante domande, io ho detto, sono qua, devo fare qualcosa, devo andare su e giù, eccetera, mi hanno detto, torni a casa, e io sono tornato a casa. Cosa posso fare per cercare di mettermi il cuore in pace? Lei può fare una preghiera con me? Senz'altro, io la preghiera la faccio per lei, gli do anche una benedizione particolare. Questo autoerotismo, chiamiamolo così in maniera, come si dice, è una cosa che è peccato. Sì, ma ascolti un po'. Sì, ma probabilmente adesso questo è accentuato per questa situazione di restare dentro, in casa. Sì, forse sì, sicuro, prima è chiaro, era chiaro. Meno accentuato. E allora, non è colpa sua, è anche un po' colpa sua. Adesso è più in una situazione di difficoltà, quindi si manifesta con più urgenza questa necessità che lei ha. Quindi sì, accolga. Soprattutto a livello così di, diciamo, di sfogo sessuale, ecco, diciamolo. Sì, ecco. E adesso io le do la benedizione solenne. Sì. Una benedizione particolare anche perché io possa redimermi da questo autoerotismo, da questa sessualità, che è il diavolo che mi spinge a fare queste cose. Sì. Noi diamo la benedizione, ma non stia a credere che la benedizione sia automaticamente che risolve il problema. È un aiuto che io ricevo per essere più forte in questa situazione. Sì. Allora, Dio, che è Padre misericordioso, guarda questo tuo fratello, perché sinceramente desidera amarti, ma con tutte le forze a volte non riesce ad esserti fedele, qualche volta anche manca. Tu che sei padre, accoglilo, esaudiscilo e perdonalo nelle sue difficoltà. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di te e con te rimanga sempre. Grazie Padre, grazie infinite, arrivederci. Sì. Maurizia? Sì, Giuseppe? Come stai, Maurizio? Ciao Giuseppe, sono a letto. Saluta Parenzo innanzitutto. Ciao cara. Ciao, Ciao Parenzo, come stanno le tue occhiaie? Ciao comunista. Bene cara, volevo dirti questo: nei momenti di depressione ripenso a quello straordinario slogan di quando eravamo insieme a Tele Lombardia, che sì, suonava pressappoco così: op op op. Com'è che faceva lì? Che era molto... Faceva op op, subel duro, te lo farò diventare duro come la coda di un canguro. Eccola qua, eccola qua, era meraviglioso, era questo slogan. Senti, ma ti ricordi a Tele Lombardia quando tu... Ma come no, mi chiusero la trasmissione quando hai tirato una sedia in testa a Maurizio Ruggero, no, al cattolico tradizionalista. Quando ho tirato la sedia in testa a Immaginetta, quel coglione. Sì, esatto, Maurizio Ruggero, me lo ricordo, chiusero la trasmissione dopo mezz'ora di diretta, la chiusero subito, mi ricordo perfettamente. Quello è un coglione anche da Barbara Russo. Ho capito, ma non si può, tirare in testa in diretta televisiva una sedia, però no, questo voglio dire. Ma tu mi avevi legato con due manette, ho spaccato le manette, sì, perché quello anche questo è vero. Mi diceva che io che sono un appassionato della Madonna Vergine, sì, mi diceva che per parlare della Madonna mi dovevo sciacquare la bocca con la candeggina, quell'idiota. Scusami, Maurizia. E lei si è alzata, ha distrutto le manette in diretta, sì, e gli ha tirato una sedia. Scusa, addosso. Maurizia, ha tirato una sedia, in un minuto, qual è la tua situazione in questo momento? Stai soffrendo per il coronavirus, per questa reclusione? Io con te voglio fare due minuti quotidiani da qui ai prossimi giorni. Allora, guarda, io in questo momento mi aggrata orchi, che era un vecchio detto che dicevo al mio povero nonno. Sto guardando tutti i telegiornali e ho preso degli appunti. Allora, li posso leggere? Veloce, vai, veloce. Protezione civile, Sborrelli, Borrelli. Sì. Allora, Borrelli dice che sì, normalmente il capo della protezione civile dovrebbe muoversi e andare sui posti dove succedono le cose. Ha detto che si muoverà quando sarà il caso. Quando è il caso? Quando i morti invece di 542 diventano 5.000. No, ma la tua condizione, qual è la tua? Hai paura di questo coronavirus o no? Questo voglio capire. No, assolutamente paura, perché io sto a casa e oggi avevo su due mascherine. Sono andata in banca e avevo su due mascherine. Ma non c'è bisogno di due, basta una. Un'ultima cosa che ti voglio chiedere è questa, cara Maurizia. Ma come fai col sesso, tu che sei un'appassionata della materia? Vabbè, niente. Mi masturbo dalla mattina alla sera. Ah, così è, così, proprio così. Tesoro, io col dito mi sollazzo, ma col cazzo è un altro andazzo. Ma questo va bene, racconto questa. Vabbè, queste poesiole, perché queste poesie sono così? Sono le massime della signora Paradiso. Senti che poi c'ho il mio Camillo, vedi che sta abbaiando, perché c'è in studio il buon Parenzo, che è del PD, che è un comunista. Ma il mio Camillo della Camillo. Lega Nord, quindi capirai, no? Sì, vabbè, importante che tu stia bene. Ci sentiamo domani, ma è importante che tu mi dici sto bene, me lo dici per favore forte, sto bene. Allora ascolta, io sto bene, però posso dire una cosa, io sono una malata oncologica e non ho ancora ricevuto una mascherina di quelli che il caro Di Maio e questo governo dice che sono disponibili nella farmacia. Allora, quindi ti manderò una mascherina. Baci, baci, a presto italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, quando lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Voglio la libertà per andare alla banca e alla posta. Il professor Zangrillo continua a dirmi tachipirigna.